Vuoi il meglio per il tuo business? Fiat ha pensato a chi lavora in proprio. Basta un click per scegliere la tua nuova auto. Bonus Impresa offre un vantaggio concreto per aziende e partita IVA. Ad esempio, su Fiat 500X Hybrid hai un bonus di 4.800 euro sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 31 gennaio presso i concessionari aderenti all'iniziativa. Visita il sito bonusimpresa.it. Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. Carissimi amici di Ludico Forum, bentornati a questo nuovo episodio, ovviamente, di Ludico Forum, che sarebbe dovuto andare in onda ieri sera, ma non è andato in onda ieri sera perché ci stavano dei problemi tecnici che si chiamano un nuovo cane che è arrivato e che piagneva tutto il tempo e cagava e pisciava dappertutto. E poi c'era il derby della capitale, che insomma alla fine è vero che devo dire che non era per quello, perché l'avrei guardato durante la trasmissione, però poi insomma fare la puntata con nuovo cane insomma era un po' complicato. Infatti anche in questo momento sta piagnucolando, ma stai buono cane, stai buono, stai al tuo posto. Salutiamo intanto i partecipanti a questa puntata e dopo vi diremo insomma di che cosa si parla. Ci abbiamo per la seconda volta consecutiva, addirittura terza puntata nelle ultime settimane, scatenatissimo, caro Sant'Agostino. Ciao a tutti, mi sa che tra poco nevica. Allora. Nevica, esatto. Poi la prossima settimana organizziamo una puntata di archeologia videoludica, quindi state tranquilli. Walter Sbano. Buonasera ragazzi, un saluto a tutti. A questo punto però Carlo ha creato una sorta di aspettativa, quindi mi aspetto che lui sia in diretta con noi in tutte le puntate di Ludico Forum fino a quando non nevica a Roma. Bene, qui intanto mentre io faccio la trasmissione entra gente dentro casa, va bene, va benissimo, sono felice di vederli perché altrimenti sarebbe stato difficile ultimamente. E poi vi dico anche chi è, perché adesso fra un po' gli apro il microfono. E comunque abbiamo anche Alex Raccuglia. Buona zona rossa a tutti quanti. Noi siamo arancioni. No, ma prima o poi sarete rossi anche voi. Rossi pure noi. Ma io sono rosso da sempre, quindi non so, insomma, quindi Regione rossa la trionferà. Carmine Puccio Console. Io invece sono in regione gialla e qui sta nevicando. Sta nevicando. Quindi la profezia si è avverata. La profezia di Celestino, sto aspettando, scusate, devo guadagnare un attimo di tempo, so che è poco radiofonico, ma qui, capito, si accomodano. Ci siamo? No, non ci siamo ancora, vabbè, io comunque ve lo presento ugualmente, perché improvvisamente così è imboccato dentro casa Marco Gualdi. Ecco, vabbè, insomma, vabbè, questa è un po' la situazione d'emergenza con la quale stiamo facendo questa bellissima trasmissione. Adesso vado via perché non riesco a fare un cazzo. Ecco, ok, vabbè, ti senti? Ti sei pronto? Ok, grazie Marco di essere qui con noi. E ragazzi, questa volta parliamo di un argomento che è contemplato con i videogiochi, ma come abbiamo detto tante volte, Ludico Forum oramai ha deciso di espandere insomma il suo lavoro, che è al di fuori, ovviamente non soltanto dei videogiochi, cercando di andare su tutto quello che è il campo dell'intrattenimento. Allora, la puntata si chiama Dannazio Memorie e giustamente anche in questa occasione abbiamo l'intro fatta dal buon Vargion, e perché non ascoltarla? L'inizio dell'era della distribuzione digitale ha segnato un importante passaggio tra l'acquisto di beni all'acquisto di servizi, in particolar modo nel mondo dell'informatica e dell'intrattenimento videoludico e digitale in generale. Questo passaggio storico non ha solo un'implicazione legata all'oggetto fisico in sé, al feticismo del collezionista o cose simili, ma modifica anche il modo in cui possiamo gestire come spettatori le opere creative, oltre ai problemi di conservazione e analisi dell'evoluzione delle opere stesse. In questo ambito abbiamo avuto modo di notare, sia con film e serie TV, che per software o videogiochi si può verificare, a seconda delle necessità di licenza o del capriccio di un publisher, quell'effetto che in storia viene chiamato Damnatio Memoriae. Un fenomeno di una gravità inaudita, che vogliamo cercare di eviscerare in tutti i suoi aspetti tramite Walter Sbano, Carlo Sant'Agostino, Alex Raccuglia e Carmine Puccio Console. Bene, quindi praticamente Marco Gualdi non c'entra un cazzo in questa puntata, però... Perché non è OGM questo? No, non è OGM pomeridiano, no. Marco Gualdi, tu cosa ne pensi della Damnatio Memoriae? Io già me lo sono scordato, guarda. Cioè, quindi okay. Proprio... Ah, quindi vabbè, più di quello, insomma, vabbè, ma pare giusto, insomma. Carlo, Carlo, l'abbiamo inserito perché un po' è un argomento che, diciamo, parallelamente abbiamo già affrontato in altre situazioni, quando parliamo di videogiochi, quando parliamo di storia dell'informatica, quando parliamo di televisione e cinema, poi alla fine comunque è un argomento che ritorna spesso e volentieri, soprattutto con Carlo stesso, appunto, che vabbè, purtroppo, raga, cercane, dovete abituare che cercane, insomma. E io partirei proprio da diciamo Carlo. Sì, partirei proprio da Carlo, ma soprattutto parliamo di cinema, perché quando si parla di cinema, nella storia del cinema, questa cosa del perdere delle opere e quindi che le opere possano andare nell'oblio, diciamo così, in generale, è già successo anche nel mondo analogico, nelle cose, insomma, quelle pratiche, quelle fisiche, no? Perché tantissimi film magari sono stati perduti perché sono andati bruciati o perché comunque sono andati persi, o alcuni addirittura sono stati recuperati dopo 20, 30, 40 anni o via dicendo, insomma. Ecco, già qui noi possiamo vedere una piccola differenza da questo punto di vista, cioè, nel senso che una cosa è l'oggetto, e quando tu perdi l'oggetto ci può essere un lavoro di ricerca che, insomma, può portare a un buon fine, come potrebbe anche non portare a niente. E una cosa invece quando c'è un'azione proprio dovuta a fattori di diritti, di gestione, di distribuzione da parte di un network, di un publisher, di un produttore, di quello che sia. Carlo. Allora, assolutamente. Innanzitutto facciamo è giusto partire dal cinema, perché è un esempio abbastanza concreto di quello che voglio puntualizzare, di quello su cui poi discuteremo all'interno principalmente di questa trasmissione e del come mai ne abbiamo già parlato diverse volte di questo fatto, perché la Damnatio Memoriae è sempre, cioè, è qualcosa che è codificato nella storia, cioè la perdita del documento originale in qualche modo, e che quindi non è più possibile rivedere, riconsultare o riverificare quello che è il documento originale. In molti casi nella storia, anche prima del cinema, ci rimangono i racconti di un qualcosa che esisteva, ma questo, un libro, un documento, un qualcosa, ma di questo qualcosa se ne è perse completamente le tracce. Nel caso specifico della storia del cinema, vabbè, sì, se partiamo dagli esordi, Méliès, la sua opera fu quasi completamente ricostruita grazie al lavoro di collezionisti, eccetera, che avevano conservato le sue pellicole, che poi sono state ricostruite, restaurate, eccetera, e ritrovate nel tempo. O in tempi più recenti, un altro esempio semplice è una delle prime serie di Doctor Who, che erano stati persi i master all'interno della BBC e sono stati ritrovati e ricostruiti grazie al fatto che qualche collezionista aveva registrato in qualche modo quella serie e l'aveva conservata e ritrovata poi nel tempo. E qui proprio nasce la prima grossa differenza, cioè che stiamo parlando di un mondo precedente all'attuale dove il media sta sparendo, ed è questo che ha sempre scatenato negli ultimi periodi le discussioni, quelle che ho fatto io sulla storia del videogioco e sulla storia dell'informatica, ma in generale anche per quanto riguarda la storia in generale, cioè il fatto che prima, grazie al fatto che esistevano i media fisici, c'era la possibilità che qualcuno una copia di questo media ce l'avesse da qualche parte, una copia di questo diciamo documento, piuttosto che film, piuttosto che audio, eccetera, fosse conservato da qualche parte, anche se perso, prima o poi magari qualcosa si sarebbe riuscito a trovare o a ricostruire. Nell'epoca che stiamo vivendo adesso, cioè il fatto che attualmente i media stanno sparendo, stiamo andando verso la fruizione di qualunque cosa come servizio, si è iniziati dalla musica già da ormai 20 anni con gli iPod e iTunes, che poi è diventato adesso c'è come si chiama Spotify, eccetera, Spotify, eccetera. Apple Music, esatto, Apple Music, e poi adesso Amazon, pieno dell'evoluzione dello streaming per quanto riguarda il cinema, quindi Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, eccetera eccetera, e stiamo iniziando adesso a entrare nella generazione del videogioco in streaming, quindi come servizio, no? Quindi Stadia, eccetera eccetera eccetera. E questo passaggio cosa comporta? Comporta che, non essendoci più il media fisico, la percentuale della conservazione di un determinato qualcosa, un'opera in ogni caso, diventa sempre più raro e più difficile. È quasi completamente ormai solo ed esclusivamente demandato alla pirateria, praticamente, perché o chi produce l'opera, e quindi uno, il produttore, l'autore, eccetera, ne conserva una copia da qualche parte per i posteri, oppure qualche copia fatta in maniera illegale potrà sopravvivere, ma di sicuro non l'opera che è stata fruita tramite il servizio digitale. Questa tenderà a scomparire, già adesso lo viviamo tutti i giorni. Esempio pratico: mio figlio c'ha 10 anni, voleva vedere la serie di Dragon Ball, la prima, e non può perché non c'è sui vari servizi digitali, quindi o vai a scaricartela da qualche parte o se no non la puoi proprio vedere. Questo è un esempio stupido, ma serve per far capire il concetto, e questo vale per qualunque opera di questo tipo. Recentemente, quando abbiamo fatto la puntata dedicata al sorgente di Monkey Island, ecco, lì ne abbiamo parlato più che altro anche per la preservazione di quello che sono i videogiochi, una volta che questi smetteranno di esistere come media, esisteranno solo come servizio, come streaming. Se io vorrò rigiocare o rivedere o ristudiarmi una prima versione di un videogioco che ha avuto successo, un esempio che faccio spesso è quello di dire: vorrei riguardarmi o ristudiarmi la prima versione di un lapsus, scusatemi, quel gioco famosissimo che giocano di Fortnite, ok? In questo momento io lo posso studiare solo grazie ai filmati su YouTube, non posso fare altro, non è che posso mettermi lì a giocare la prima versione di Fortnite, non posso fisicamente, quindi è un qualcosa che sicuramente è un problema, e come sarà affrontato, come verrà risolto, è una delle questioni. Beh, innanzitutto bisogna vedere se c'è l'interesse di affrontarlo e risolverlo. Alex, ritornando al punto di partenza, quindi al media fisico, no? Noi però adesso stiamo facendo una puntata che alla fine punta il dito, diciamo, per un problema oggettivo su quello che è il mondo dei servizi e quello che è la digitalizzazione, no? Quindi il portare l'opera verso il digitale. È vero però che nella storia del cinema in realtà la digitalizzazione ha anche salvato molte opere, perché comunque nell'opera di riscannerizzazione, di restauro, comunque alla fine cose che oramai erano quasi più inguardabili, anche se per ragioni storiche, perché non è che uno se va a vedere il film, cioè nel senso che magari non so recuperato in digitale del regista X del 1912, però insomma è comunque importante dal punto di vista storico. Sì, allora, prima di tutto il grosso problema della digitalizzazione, che non è un problema, non è tanto il fatto di digitalizzare o non digitalizzare, il fatto è che a un certo punto qualcuno questa roba se la deve tenere sul groppone. Ai tempi del cinema analogico, dove c'era la pellicola, le major avevano iniziato a storare, cioè a mettere le pellicole praticamente dentro dei grandissimi frigoriferi, perché appunto col caldo si deterioravano prima, in dei bunker, come dire, vabbè, cioè, cerchiamo di preservarle in questo modo. Sulla digitalizzazione è la stessa cosa, cioè a un certo punto che hai, quando hai digitalizzato un film, un'opera qualsiasi, e questo di conseguenza è diventato un file che è svincolato dal supporto fisico per certi versi, perché è un file. Se tu mandi un'email con dentro un allegato Word, l'allegato Word non sta fisicamente da nessuna parte, essenzialmente sono dei dati, dei byte, degli elettroni che rappresentano queste informazioni. Però alla fin fine è svincolato, sì, ma è vincolato dal punto di vista che da qualche parte questo cavolo di file deve pur stare. Lo vediamo ogni giorno quando ci sono servizi in cloud che magicamente dicono: sapete che c'è, abbiamo sbagliato il nostro business plan, chiudiamo, è stato bello, avete 25 minuti di tempo per scaricarvi tutto quello che avete caricato qua, altrimenti ciaone. Ecco, il grosso problema secondo me è questo, il ciaone, nel senso che se c'è una copia, cioè un supporto fisico, cioè da qualche parte questo file deve comunque stare, perché la nuvola, ricordiamolo, mi viene tristezza dirlo, è il computer di qualcun altro. Se questo qualcun altro saluta, il problema essenzialmente rimane. La digitalizzazione aiuta perché a un certo punto è come se congelasse un certo istante di tempo. Ovvio che fisicamente il fotogramma, che è un oggetto fisico fatto di un materiale semiplastico, e con degli strumenti, con delle cose chimiche che l'ha reso immutabile. Cioè, questa roba qua viene digitalizzata, a questo punto è tenere digitalizzato questo fotogramma nell'istante di tempo in cui è stato digitalizzato. Va bene, si può fare di tutto anche per recuperare, anche per migliorare per la qualità dell'immagine, però alla fine questa cosa qui da qualche parte deve essere messa. E va bene la digitalizzazione, sono il primo a dire che tutto dovrebbe essere salvato per i posteri, il problema è che da qualche parte qualcuno si deve tenere sul groppone questa cosa. E lo dice uno che sì, fa un sacco di backup, ma magicamente l'1% delle cose che ha backuppato per qualche motivo la perde, ed è sempre quella stronza cosa che ti chiedono. Vabbè, che però questo, cioè, nel senso, comunque il problema si sarebbe posto comunque, perché comunque la celluloide, comunque, dopo un po', vuoi o non vuoi, per quanto tu possa tenerla nelle migliori condizioni possibili, è comunque soggetta al deterioramento. Sì, sì, ma infatti quindi, la cosa sono interessante, la digitalizzazione viene girato in digitale, per cui non esiste più un oggetto fisico che si deteriora. Comunque, invece, a Walter volevo chiedere, allora noi, cioè, chi è stato, poi Walter ha lavorato in un'attività, in un negozio di noleggio di DVD, se non sbaglio, no? Giusto? In videoteca per 2 anni, sì. Ah, quindi erano videocassette? O no? Prima videocassette, io ho vissuto la fase della transizione proprio dall'inizio. Okay. Allora, diciamo che la grossa questione, insomma, che alla fine comunque ha cambiato un po' le regole del gioco in generale, anche quando ancora stavamo parlando dell'oggetto fisico, è la questione delle licenze, no? Che è una questione che in realtà è sempre esistita, però noi poi l'abbiamo diciamo subita maggiormente quando le licenze hanno cominciato a diventare quindi non tanto l'oggetto in quanto tale, ma la tua possibilità di usufruire di quell'opera. Quindi quando tu andavi a acquistare o a noleggiare o qualche cosa, tu acquistavi il diritto di usufruire di quell'opera, piuttosto che ovviamente quella tua copia dell'opera in sé, no? Cioè, e quindi praticamente il DVD è... Tranquillo, tutto a posto, ok, vabbè. Il DVD e le videocassette hanno un po' già creato un minimo inizio di transizione in questa era invece poi dell'iTunes, del mondo di iTunes e successivi? In realtà è difficile da dire, nel senso che la copia personale, che fosse, diciamo, in quel caso originale, quindi la propria copia di un'opera audiovisiva, è soggetta a tutta una serie di leggi sul diritto d'autore che noi diamo per scontati in un certo modo, però molti per esempio non sanno che a strettissima interpretazione del regolamento appunto sul diritto d'autore, quindi del regolamento SIAE, se io detengo il possesso di una copia di un CD musicale piuttosto che un film, a strettissima teoria non lo potrei neanche prestare a terzi. Esatto. Quindi, in realtà, diciamo che i diritti acquisiti su quell'opera, su quella copia dell'opera, sono molto relativi. Cioè, tu hai il diritto di goderne appieno a livello privato, secondo determinate regole. Non potresti invitare neanche più di un tot di persone a vedere la tua videocassetta a casa. Anche quello sarebbe una violazione. Però queste sono cose che riguardano più come è stata strutturata forse la nostra SIAE che il diritto d'autore internazionale. Questo non lo saprei dire. Però insomma, diciamo che lì la transizione tra la fase del digitale e quello che prima era la conservazione dell'opera da un punto di vista del proprietario dei diritti, magari è molto relativo, cioè non c'è forse tutta questa transizione in quel momento, perché lo scenario poi nella fase puramente digitale io credo che sia cambiato drasticamente. Però in realtà volevo fare un piccolissimissimo, se me lo consenti, preambolo, ragionando sul fatto che secondo me il problema della dannatio memoriae è praticamente una sorta di trivio, nel senso che ci sono tre tipi di casistica. La prima è quella dovuta all'inevitabile, cioè alla perdita involontaria dell'opera. Scusa Walter, Walter, secondo. Sì, Alex, scusami. Com'è? Cosa? L'inevitabile com'è? Inevitabile. Ok, vai, prego, scusa. Bello quest'asset, però va messo in uno short code. No, dicevo, si parte dal concetto dell'inevitabile e dell'imponderabile, cioè i proprietari dei diritti di uso un'opera perdono gli originali, che è qualcosa su cui anche le major cinematografiche negli anni hanno cercato sempre di stare attente, hanno cercato di conservare le prime pellicole in acetilene che prendevano fuoco al sole in frigorifero, come diceva Alex, piuttosto che comunque in luoghi tutelati, in cassaforti eccetera. Poi succede come succede, che qualche master più vecchio si deteriora, succede che alcuni capannoni, non so se ve lo ricordate, non troppi anni fa i capannoni, non mi ricordo quale major, forse Paramount o Universal, sono, non ricordo, fuoco, bene, sì, presero fuoco, mistero, e si persero copie originali di tantissime opere. Non è mai stato rivelato se e cosa è stato perso definitivamente, non lo sappiamo. Perché sono dimenticato. Però qualcosa sicuramente è andato perso. C'è senso questa cosa. No, ma in realtà, lo dicevamo prima, pure quando, cioè è vero, l'ho detto pure io, il discorso, comunque il deterioramento e l'incendio è stato un problema serio, ma in realtà il caso di Doctor Who, anche se parliamo di televisione, citato prima da Carlo, è stato un caso più eclatante, perché a quanto pare, poi in realtà Carlo magari mi può confermare o no, su alcune cassette originali della prima stagione, la prima serie anzi, di Doctor Who, la BBC ci ha registrato sopra, fondamentalmente. Sì, no, è una cosa che tra i fan si sa benissimo. Questo diciamo è la storia raccontata, poi bisogna capire, insomma, eppure... Cioè, raccontiamo alla Scotland Yard che ha perso non si sa quanta roba oggi cancellando file originali. Aspetta. Me dobbiamo differenziare per argomento, no? Vai. Cioè, ok, da una parte c'è la perdita involontaria, da un'altra parte c'è la perdita per mancato concetto di conservazione, che poi è il discorso che farà sicuramente molto più ampiamente di me Carlo, quindi anche da un punto di vista dell'utente finale, del collezionista, dell'amatore che vuole preservare certe opere. E la terza forma di dannazio memoria, che è la più brutta, che con cui sicuramente avremo a che fare dopo, che è quella dell'era del digitale, in cui non sparisce un'opera per causa di forza maggiore, ma si decide di farla sparire perché a un certo punto in poi viola qualche convenzione sociale, per cui il proprietario dell'opera ritiene che sia il caso di modificarla o di farla sparire, che è la più brutta delle dannazio memorie, no? Che è quella su cui c'era anche quella di Hoskins per quanto riguarda il film di Super Mario, per lui è dannazio memorie. Cioè, non l'ha mai fatto. Vorrebbe che sparisse. Vorrebbe, sì. Vorrebbe. Nella sua testa è sparito. Come il secondo film di Highlander, allora, se proprio. Ma io stavo dicendo il simpatico caso di Scotland Yard, che praticamente per il romano ha cancellato gozzilioni di dati inerenti a casi, indagini, impronte digitali, file di sospetti, ed è bellissimo, e non c'hanno più nulla. Secondo me quello si chiama servizi segreti stranieri. No, l'hanno pure negato. MI6, perché è un virus. Comunque quello è perdita dati pura, al di là dell'opera, diverse. La damnazio è la tira quello che deve registrare tutto. Poi. Sì, una cosa breve, una precisazione, perché ho visto che c'è un po' di confusione, almeno l'ho percepita così io, tra il digitale e lo streaming, cioè il servizio. In realtà il problema non è il digitale non è un problema di per sé stesso. No, infatti non abbiamo detto che solo è un aiuto. Streaming che non esiste con un media è l'usufruire del contenuto tramite un servizio di streaming il problema, non sì, è ma il nessuno, nessuno ha detto che il problema è il digitale, ma è chiaro, cioè, anche perché comunque molte delle opere che sono fruibili solo a livello di streaming digitale, in realtà poi se vai a cercare un corrispettivo fisico lo trovi ancora, perché anche alcune opere persino della stessa Netflix poi vengono pubblicate anche su supporto fisico, diciamo che la transizione è ancora in corso. Esatto. No, sì, è vero. Comunque non è il digitale in sé, noi stiamo parlando dell'era del digitale rispetto all'era dell'analogico e di una fase di transizione. Ma non è il concetto è l'immateriale, esatto, non il digitale. Non è il digitale. L'usufruire di anzi, come servizio. Abbiamo detto prima, il digitale in qualche maniera ha salvaguardato anche cose che comunque in qualche maniera abbiamo cercato di riarchiviare, restaurare in una certa determinata maniera. Il cinema però, e qui voglio sapere il parere un po' di tutti, cioè perlomeno chi ha avuto modo di affrontare questo tipo di discorso, e voglio sentire anche un po' il parere magari di Marco, per quella che poi sono perché insomma secondo me Marco entra un po' in gioco più tardi nella parte della trasmissione più avanzata, però in generale quando c'è da pisciare il cane, esatto, il problema del cinema, e soprattutto in un paese come il nostro o in paesi dove c'era un certo tipo di controllo anche morale sulle opere artistiche, diciamo che uno dei problemi che è sempre esistito nel mondo del cinema è la censura, vabbè, ma anche nella musica, anche in altre situazioni, ma forse in particolare nel cinema, perché il cinema poi era un medium così anche più immediato, più diretto, insomma, quindi contenuti magari politici, contenuti religiosi, contenuti sessuali, che alla fine hanno comunque subito una grossa mannaia dal punto di vista della censura, e ribadisco, soprattutto in Italia. Diciamo che questo problema con l'evoluzione non è sparito, e forse secondo me in qualche maniera è anche peggiorato, perché mentre prima magari c'erano delle ragioni anche sociali, diciamo, la censura poteva anche avere un compito di salvaguardia magari di un certo tipo di pubblico, diciamo così, tra virgolette, oggi invece la censura è proprio generalizzata, ed è una censura che si basa su un certo tipo di moralità, diciamo, un po' convenzionale e il politicamente corretto. E questo è un fatto, è un dato di fatto che oggi si sta verificando in tante altre situazioni, poi magari facciamo anche degli esempi. Ecco, che cosa pensate di questa cosa, partendo da Carlo? L'ho già esposto prima, comunque da questo punto fammi pensare un attimo, dai, okay. Walter, vai. Vai. Ma guarda Simone, a parte il paradosso, tu hai detto, diciamo, che forse l'Italia è uno dei paesi che più ha subito la censura. In realtà mi verrebbe storicamente da dirti che in Italia, quando si parla della realizzazione di un'opera, per esempio cinematografica, il regista, che teoricamente dovrebbe essere il deus ex machina del lavoro, dell'opera stessa, ha il diritto di decisione su quello che è il montaggio finale, salvo eccezioni. In America, per esempio, che sembrerebbe più liberale per me per certi versi, è il produttore di un'opera che decide il montaggio finale, tant'è che poi è tutto un tripudio di director's cut di serie che poi magari rimontati hanno solo 2 minuti di differenza rispetto all'originale, però in molti casi quei director's cut nascevano proprio perché si voleva far vedere l'opera come l'aveva pensata il regista, quindi al massimo del suo messaggio, del suo significato, e non per come era stata riadattata dal produttore per motivi commerciali o di censura, che dir si voglia. Però al di là di questo, io non so se oggi c'è più censura del passato, mi verrebbe da dire di no, perché oggi ci sono più strumenti da parte dell'utente, del pubblico, per capire se questa censura c'è stata. Tu prima la vivevi passivamente, prima di internet. Prima non te ne accorgevi neanche, diciamo la verità, perché poi... Cioè, scusa? No, prima non te ne accorgevi neanche, non lo esatto, sapevi. Esatto, non lo potevi sapere, cioè esatto. Tu vedevi un'opera per come ti veniva proposta, per te quella era, per noi quella era, perché quando vedevamo le serie TV, i cartoni animati degli anni 70, se noi vedevamo, dico una stupidaggine, la serie TV della Tata negli anni 90, non so se ve la ricordate, con questa tizia che si chiamava Francesca, che era la Tata di Frosinone, con tutti questi personaggi così un po' surreali che tu non capivi, ti sembrava quasi ridicolo, ma perché questa dovrebbe essere di Frosinone? E la prendevi così per buona. Quello era un adattamento becero scelto dall'editore che lo ha pubblicato in Italia per cambiare qualcosa che altrimenti non sarebbe stato ben capito, perché era troppo lontano dalla cultura italiana, e cioè il fatto che era una famiglia ebrea abbastanza non ortodossa, insomma, però poco ci mancava, e quindi la Tata ebrea era diventata una Tata di Frosinone. Ma è un adattamento deleterio, perché ha reso ridicolo il senso di molte battute. Erano poi contenti quelli di Frosinone, immagino, insomma. Esatto. A parte che penso sono che tutti ebrei, stati molto contenti, ma poi noi ne fruivamo, a noi sembra suonava magari strano, suonava ridicolo, però non avevamo gli strumenti per capire come mai cosa fosse la serie in originale. No, quello è il classico esempio, più che di censura, di adattamento ridicolo. A me queste sono le cose che piacciono poco, gli adattamenti che alterano il senso originale di un'opera, e li trovo molto diversi dalla censura. Sono scelte più che altro commerciali, scelte di funzionamento, anche no, per però, collocare un scusa, prodotto in una certa fascia. Permettimi di focalizzare. Vi ricordate, lo fecero anche con Pappa e Ciccia. quello con Roseanne Barr. Sì, chiaro, perché lì c'era la politica, c'era la critica alla politica americana, sì, che chiaramente avrebbe funzionato pochissimo in Italia. Già che si chiama Papa e Ciccia, comunque aspetta, scusate, permettetemi. Roseanne Barr prima che impazzisse completamente. Permettetemi di focalizzare bene la domanda che ho fatto, perché forse non mi sono spiegato. Non penso che la censura sia di più o di meno. Dico che mentre che prima, per ragioni storiche, anche la censura era molto più focalizzata, oggi la censura è più generalizzata su, diciamo, dei presupposti morali e politicamente corretti che spesso e volentieri a noi possono essere anche incomprensibili. Sì, ma quella non è più censura, però, perché a quel punto si è cominciato a fare un passo prima ancora del creare l'opera. Cioè, se prima era una censura, quindi qualcosa veniva tagliato, veniva omesso, veniva modificato per motivi di censura, adesso si pensano le opere già alla base con un discorso, con una morale diversa. Il discorso del ma io so sempre a parlare shaming, piuttosto che del facciamo l'esempio. Aspettate, posso farvi un esempio che viene da un argomento che non abbiamo toccato proprio. No, aspetta Puccio, così poi passo pure a te, e così se facciamo l'esempio, perché qui non stiamo parlando di opere oggi pensate, io sto parlando sempre in generale. Il caso Via col vento è stato un caso particolare, no? Ad esempio, cioè, nel senso, a un certo punto la gente si è posta il problema che c'è un film dove ci sono i negri che fanno i schiavi e che dicono sì padrone, che era era solo quello, c'era anche il fatto che poi venivano dipinti come bestie assetate di sangue in certe circostanze, schiavisti di schiavi, ma questo, anche loro. Ma questo nella storia del cinema americano nei primi 40 anni del secolo è stato sempre così. Allora il problema è che tu devi contestualizzare un'opera, non la puoi decontestualizzare e giudicare secondo la morale attuale, perché quella è una... HBO difatti quello ha fatto, ti ha messo un disclaimer davanti sul suo servizio di streaming che dice prima l'ha levato, esatto. Metto davanti questo, esatto. Ti dice guardate, è preso da un libro scritto da un reduce della guerra di secessione eccetera eccetera, però prima l'ha levato il film, è una rappresentazione, cioè, l'ha levato per, cioè, tu stai a parlare di un classico, non scherziamo su sta cosa, perché prima non l'ha fatto Spari, non sono andati a rastrellare i negozi per i DVD. Allora, io potevo non avere più l'opportunità di vederlo, cioè, questo l'ha tolto per una settimana per dargli il tempo di creare quel filmato introduttivo in cui ti spiega l'abbiamo levato per questo, e questo film è il risultato di, e spiega tutto il processo creativo che ha portato lì, contestualizza il regista, ti spiega chi era l'autore del romanzo da cui è stato preso il libro, perché allora lo devi fare per tutti, però in realtà ci sono, dice che era un'attinenza storica, che è vero, ci sono perché... scusami però Carmine, ci sono dei casi magari molto più piccoli, molto più banali, che però rendono molto l'idea di quello che vuole dire Simone, e cioè ne dico due stupidissimi. Il film, se non ricordo male, Splash su Disney Plus, in cui una scena si vede il fondo schiena di Daryl Hannah, che Dio la benedica, e che viene sfumato in grafica perché non adatto se no al pubblico di Disney Plus. Oppure l'idea di questi giorni in cui interrogato le pistole sull'idea, di lo stesso Macaulay Culkin si è detto favorevole al fatto che da Mamma ha perso l'aereo 2 venisse rimossa la scena in cui c'è il cameo di Trump. Ecco, queste sono cose ridicole. Il cameo di Trump però l'hanno spiegato perché vorrebbero levarlo, perché in realtà fu il risultato di un ricatto, cioè Trump disse noi, ma l'opera è quella, ragazzi, allora sì, esatto, stop, fermi tutti che ci stiamo sovrapponendo, cioè, scusa Puccio, ok, ha ragione Puccio a dare una contestualizzazione, una spiegazione, ha ragione Walter, ma l'opera è quella. Ritorniamo sempre al solito discorso di più. Cioè, in questo momento sui siti, quelli veramente per Uber Nerd dei fumetti americani, ci si sta tirando per capelli, io per primo, su una ristampa di materiale degli anni 50-60 che riguarda il Capitan Marvel della Fawcett Comics, quello che poi è diventato Shazam quando l'ha comprato la DC, perché in molte storie di quegli anni Capitan Marvel aveva una spalla che era un ragazzino di colore ritratto esattamente con tutti gli stereotipi razziali dell'epoca, cioè testa grande pelata, gli occhioni, le labbra gigantesche, le ghette, parlava come con lo slang dell'epoca, ed è una cosa che io riesco a capire che per una persona di colore possa risultare estremamente offensiva. Quel materiale, che però un valore storico per gli amanti del personaggio ce l'ha, perché sono le storie disegnate sostanzialmente da chi quel personaggio l'ha definito, che era Otto Binder, ha un po' da fastidio sapere che quel materiale ha problemi a essere ristampato. la DC l'ha risolta più o meno come l'ha risolta HBO, lo sta distampando mettendo all'inizio di ogni volume una spiegazione che dice: guardate che questo personaggio è il risultato di cultura dell'epoca, di idea della rappresentazione. Ma lo devi fare per tutto, 50, però. Quindi non lo vivete come una cosa. Lo devi fare per quello dove rompono i coglioni. No, perché questa è discriminatorio anche nei confronti dell'opera e del suo valore storico. Allora a questo punto lo devi fare per tutti. Cioè, tu ogni film ci deve essere un disclaimer. A me andrebbe bene. Cioè, su Color ci dovrebbe essere un disclaimer che parla, che ci spiega il perché il film è stato fatto in quella maniera lì. La cosa grave è che ci troviamo a vivere in una società in cui è necessario doverlo specificare. Ma è questa la cosa. Le persone sono tendenzialmente ignoranti. Come l'affronti la cosa? O la ma non l'affronti, ragazzi. Non l'affronti. Giallo col dottor Fu Manchu pensano che tutti i cinesi sono geni del male, oppure no. Perlomeno metti un'introduzione che puoi saltarti, nessuno ti sta obbligando a leggerla, in cui ti spiega: guarda che negli anni 40 c'era uno stereotipo razziale che era quello. Allora, io quindi oggi non mi rompere il cazzo. Io continuo a dire: sì, no, vabbè, okay. Io continuo a dire, e qui voglio ripassare a Carlo e anche a Alex, perché insomma, sicuramente qualcosa da dire in merito ce l'hanno. Continuo a dire che secondo me, se tu vuoi fare una scheda storiografica, la devi fare su tutto, perché a quel punto fai anche cultura. Ma non è una storia, sì, io sono d'accordo, però non è una storia per farti imparare qualcosa, è per pararsi il culo dalle denunce. Capito, però è diverso, è un precedente. Eliminare un film da un catalogo non è colpa loro che eliminano il film, è colpa chi gli va a rompere i coglioni, minaccia e denuncia. Poi arriviamo alle opere di Kevin Spacey, no? Cioè, perché tu mi puoi dare tutte le motivazioni, quella più grave, ma se io la stagione di House of Cards. Ma se io oggi scoprissi che Caravaggio è stato il peggio stupratore pedofilo della storia dell'umanità. Caravaggio è solo stato un assassino, però, cioè. Ok. Allora che facciamo? Leviamo tutti i quadri di Caravaggio, perché così poi possiamo dipingere i quadri di Caravaggio in un angolino. Scusate, ma era un assassino, ma non lo sapevamo. Assassino. Ce lo abbiamo trovato, anzi. Ma anche se lo era, ma è l'opera d'arte di una persona, comunque. Una marea di geni nel mondo dell'arte sono stati dei pazzi scriteriati, insomma, non mi pare che sia una cosa così tanto strana. Infatti si dovrebbe separare la persona dall'artista. Quindi Alex e poi Carlo. Allora, più che di censura io parlerei di pararsi il culo. Sì, cioè, lo è. E qui se convieni con Marco. Come si dice, il politically correct è essenzialmente lo studio legale che viene assoldato da uno, da chi detiene i diritti dei contenuti, dice: cosa devo fare per pararmi il culo, per evitare delle cause? E lo studio legale, come quando accetti di usare un software, devi firmare un documento di 140 pagine che non leggerai mai, lo studio legale, che viene pagato a peso, ti dice: non devi fare questo, questo, questo, questo, questo. Allora tendenzialmente, per paura di offendere qualcuno, fondamentalmente si aggiunge questa sovrastruttura. Dal mio punto di vista significa che abbiamo bisogno di una balia, anche se siamo adulti, ed è terribile, perché sennò non capiamo le cose. E dall'altro punto di vista è la volontà di rompere i coglioni di un sacco di gente. Per la serie, ho messo il gatto nel microonde per asciugarlo, e che cacchio non avete scritto di non mettere il gatto nel microonde? 100 anni fa sei una cogliona, muori te e il tuo gatto, mi spiace per il gatto. Adesso non si può più fare, di conseguenza siamo obbligati a don't put the cat in the oven, minimo comune denominatore. No, ma probabilmente non si dice minimo comune denominatore, comune multiplo o massimo comune denominatore. No, però secondo me mi piace che sia minimo, perché indica fondamentalmente proprio abbassarsi all'anello più debole della catena. Questo è molto triste. C'è minimale. Mr. Bean ha detto: io mi sono rotto il cazzo di questo buonismo. Mr. Bean, cioè Rowan Atkinson, ha detto: signor Fagiolo, se devo fare il buonista, cioè fondamentalmente non prendo per il culo nessuno. Io invece vi prendo per il culo, andate tutti a cagare. Ho 70 anni, non me ne frega niente. E tanto di cappello di una persona che se lo può e se lo vuole poter permettere. Io tendenzialmente a volte sono particolarmente incavolato. Ultimamente, visto che lavoro spesso nella comunicazione, nel marketing e soprattutto con le farmaceutiche, adesso faccio buon viso e cattivo gioco, capisco quali sono i 500.000 vincoli che devo affrontare. Questo pone un sacco di limiti e di restrizioni, però vado avanti, però mi rendo conto che è una sconfitta dell'umanità, nel senso, come progredire, come una sconfitta dell'arte, ecco, per certi Alex versi. Sono con te e aggiungo: la combo è farmaceutiche più Ministero della Salute, così ci siamo capiti. Vabbè, la dittatura sanitaria. Carlo? Sono forse un po' più cinico, faccio un discorso un po' fuori dal coro, ma diciamo che tra virgolette non mi focalizzo su quello che succede adesso, perché qualcuno l'ha detto anche prima, tutto è figlio della morale e del momento in cui stai vivendo, ok? A me quello che interessa, ed è quello su cui bisogna battersi, ma che non è un discorso commerciale oppure un discorso dal punto di vista di riproporre l'opera per poterla vendere, perché tutto quello che stiamo dicendo adesso sulla censura è il fatto che io possa riproporre l'opera e venderla ancora oggi, ok? A me quello, tra virgolette, sono cavoli, come giustamente ha detto prima Alex, del reparto avvocati, come posso fare per pararmi il culo. Ma quello che deve essere invece fondamentale è la preservazione in qualche modo dell'opera originale, e questa deve essere demandata ovviamente a chi ha anche le capacità culturali di capire che un'opera va contestualizzata. Quindi se adesso HBO vuol far vedere Via col vento tagliato, vabbè, cacchi suoi, basta che però da qualche parte o in qualche modo mi sia data la possibilità di poter vedere e che sia conservata la versione originale, integrale, perfetta di Via col vento. E l'utente o magari lo studente ne può avere la certezza in merito, secondo te? L'utente che a questo punto ha la capacità, diciamo, culturale di poter studiare o approfondire un'opera, si andrà giustamente a ricercare, a richiedere, e questo deve essere comunque in ogni caso garantito, di poter visionare l'opera nella sua integralità, nella sua versione originale. Purché però sia chiaro che tu hai visto HBO, si fa qualcosa che non è intero. Adesso. Perché se hai tu non cosa intendo, cioè no, spero aspetta che c'era Marco che ti voleva fare un appunto. Cioè, se comunque chi studia, innanzitutto deve anche avere la voglia, l'interesse, ma diciamo chi studia deve anche partire dal presupposto che quello che sta vedendo sa già che non è l'opera finale, certo, ma soltanto la consapevolezza, certo, perché chiaro, sennò io non certo posso sapere che magari mancano 2 minuti di un film se qualcuno non me lo dice, cioè se non posso vedere l'originale, per me quello è l'originale, che ne so. Presuntuoso a questo punto di vista, ma generalmente quando io vado a studiare o vedere qualcosa cerco di informarmi il più possibile per capire se quello che ho visto era così come era stato pensato dall'autore originale, o vado comunque ad approfondire l'argomento se lo devo studiare. Sì, generalmente. Sì, condizioni normali, in effetti dovrebbe essere così, però poi ritorniamo invece poi all'esempio che ha fatto anche anche Walter prima, dicendo comunque, cioè io quando c'era la censura nei film in Italia non lo sapevo e quindi non me ne rendevo conto. Certo, ma adesso però lo sa perché è cresciuto, perché magari ha approfondito quello che gli interessava. Come perché gli strumenti per potermi informare che prima certo, non avevo. Certo, ma gli strumenti... Ma prima neanche ti arrivava la notizia che un film era stato censurato. Tranne casi giganteschi, tipo il rogo delle pellicole delle 120 giornate di Sodoma, quando fu ritirato del cinema Ultimo Tango a Parigi. Cioè non è che i registi andavano ai giornali a dire, che ne so, mi hanno tagliato 10 minuti dell'ultimo film del commissario Giraldi perché Thomas Millian era troppo volgare. Erano cose che poi abbiamo scoperto dopo. Se all'epoca vuol dire che qualcuno l'ha detto, però che sì, qualcuno lo sapeva 15-20 anni dopo. Voglio dire, non l'abbiamo saputo sul 15-20 anni dopo, meglio che mai. In quei casi specifici l'originale non lo vedremo mai, perché difficilmente poi veniva. Ma lì allora stiamo parlando di un altro tipo, cioè di un'opera che è uscita così censurata in origine. Sì, non era quello che sta dicendo, non è che. Ma questo è un altro argomento allora. Questo è figlio del discorso che comunque un'opera risente della morale del periodo in cui esce. E quindi quello è una contestualizzazione, cioè se quell'opera è uscita in quel momento così e non esiste un'altra opera non censurata, vuol dire che l'opera è uscita censurata, e a quel punto se tu sai che è stata censurata magari 15-20 anni dopo, lo puoi contestualizzare col fatto di spiegare la morale che vigeva in quel periodo. non è, è un concetto diverso, completamente diverso da quello che ha detto Simone prima, cioè che un'opera uscita originale in un certo modo adesso viene tagliata e viene fatta vedere in un altro modo. Sono due cose che non c'entrano. Beh, io in realtà non ho detto che le opere di una volta oggi vengono tagliate, io dico semplicemente che spesso e volentieri capita che è quello che sta succedendo negli ultimi 2 o 3 anni, è quello che ripetutamente sta iniziando a succedere e cominciano ad essere dei precedenti, ossia praticamente l'eliminazione di contenuti per ragioni etiche, morali o, di ragioni non di... è una novità, ma neanche dovute all'opera magari, è sempre fatto. Guarda per esempio anche i cartoni animati di Lupin, quando li abbiamo visti noi da piccoli c'era Fujiko con le tette di fuori, quando li hanno fatti su Italia 1 dopo 10 anni li hanno tolti. Vabbè, infatti, un esempio emblematico, ma infatti noi vediamo per esempio prima, nella prima edizione passata su Junior TV i dialoghi erano di un certo tipo ed erano l'esatto corrispettivo del giapponese, verificabili anche dal fumetto. Esatto. E poi quando invece sono stati riacquisiti da TV nazionali un po' più puritane, sono stati completamente decontestualizzati. Esatto, hanno tolto tutte le scene delle mutandine. Esatto, il primo episodio non ha nessun senso rivisto. Esatto. Adesso beh, devi considerare che Candy per esempio è stata completamente rimontata, addirittura il riadattamento è rimontata, il termine giusto, esatto, ma proprio il riadattamento anche dal punto di vista narrativo, cioè nel senso hanno cambiato la storia, cioè nel senso sì, beh, perché, vabbè. Anche Lupin in Francia stessa cosa, però sai, quello si poteva giustificare col fatto che l'opera originale è stata pensata per un tipo di pubblico molto diverso da quello a cui è stata destinata in Italia, perché negli anni 80 e 90 in Italia il cartone animato era sinonimo di prodotto per bambini, punto. Quindi un'opera che in origine in Giappone era stata pensata per un pubblico più maturo, che poteva essere dall'adolescente addirittura all'adulto proprio, veniva completamente stravolta perché doveva essere fruibile dai bambini. Roba che parlano i ragazzi, qua tocca dai. Ma è così. Ricordavo sempre la cosa. Venivano cambiati i nomi, venivano cambiati i contesti geografici. Sì, vabbè, i nomi non era un capriccio particolare di Alessandra Valeri Manera, mentre invece il fatto di cambiare, di edulcorare i contenuti è rimasto anche dopo. Ricordiamo Ollie e Benji, ragazzi. Mi ricordo perché c'avevo mia sorella che è molto più piccola di me che lo guardava. Mi ricordo un adattamento veramente infame di una parte di Sailor Moon in cui c'erano 3 tizi che avevano il corrispettivo delle gemelle versione femminile che diventavano le guerriere Sailor, la roba tipo Sailor transessuale, cioè proprio cambiavano sesso nel processo di trasformazione, a cui diedero una giustificazione complicatissima, assurda, pur di non dire che questi personaggi non erano binari. Cioè, ragazzi, ma ripeto, io mi ricordo tipo un pippone di un quarto d'ora fatto con lo stop motion, perché giustamente non lo potevano. Sì, sì, si usava tutto così, si censurava così. Ma guarda, uno ancora più semplice: un intero episodio di Orange Road mai trasmesso in Italia perché Madoka dormiva a casa di del protagonista, che adesso mi sfugge il nome. Solo perché dormivano nella stessa stanza, forse nello stesso letto, ma senza nessuno. Però Giorgi che si aggruppava tutti quanti, quello c'è stato. Giorgi quando si accorsero che erano arrivati all'incesto lo sospesero. Le puntate dopo non le facevano. Se ne sono accorti dopo, però, capito? Vabbè, comunque. Queste che stanno a fare. Vabbè, comunque, non entriamo adesso. Nello specifico. È un altro mondo. Comunque, era per dire che comunque l'hanno sempre fatto, non è una roba di destra. No, ma indubbiamente è così. Però, allora, c'è sempre un. E qui poi dopo ritorneremo un po' a quello che ha detto anche Carlo, insomma, nella sua introduzione, che poi in realtà ha preso proprio tutto l'arco della puntata, no? Il fatto che comunque una volta quando usciva un'opera. E quest'opera era uscita, basta, cioè nel senso in linea massima la potevi forse ritirare dal mercato in qualche maniera, ma il fatto che fosse andata in circolazione, diciamo, se fosse invece oggi per i canali convenzionali questo tipo di discorso, insomma, come posso dire, sarebbe la sicurezza di poter reintegrare, rivedere o avere la preservazione da parte della gente più comune. Io non parlo dell'accademico, capite? Cioè, nel senso anche delle persone che magari ci tengono a vedere, o magari perché se la studiano per conto loro, o via dicendo, per vedere com'è stata l'evoluzione di quella cosa. Com'era la sua versione originale. E quindi ritorniamo anche a quello che poi ci siamo detti anche in in prediretta, diciamo, sul discorso del, di Cannarsi, no? Quindi il famoso doppiaggio e via dicendo, quindi entriamo anche un po' su quelle che sono le opere televisive, che al di là della qualità dell'opera e al di là del fatto che sicuramente meritava di essere sostituita o meno, non entriamo in questo tipo di discorso perché ne abbiamo già parlato mille volte, però il fatto che comunque questa opera in qualche maniera viene completamente eliminata, e questo alla fine determina il fatto di non avere l'opportunità di riconsultarla, di confrontarla anche con la versione italiana giusta, con la versione giapponese, con la versione inglese, con quello che cazzo vi pare a voi, no? E alla fine questo può diventare un problema, cioè, nel senso, perché comunque io non so se un giorno avrò l'accesso a quel tipo di informazione. Questo è. Però nel caso specifico del doppiaggio il problema diventa un po' diverso, perché trattandosi alla fine di un adattamento che qualcun altro fa da una lingua all'altra, se il titolare di quell'opera, cioè chi l'ha pensata, l'ha costruita, l'ha pubblicata, l'ha scritta, quello che è, ti dice: guarda, mi è arrivata la voce che questa mia opera è stata ridoppiata così a cazzo di cane, diventa incomprensibile, diventa infruibile per il pubblico, e io esigo che venga ritirata perché lede quello che è stato il mio lavoro. Io lì un po' ci rifletto, perché queste cose le ho viste succedere anche diverse volte per i fumetti con autori inglesi, ma so che è successo anche a Mondadori per Asterix, che è un fumetto francese, in cui gli autori hanno detto: guardate, questa traduzione dalle prossime versioni la modificate perché non è quello che volevo dire io, così non rende, oppure semplicemente non mi piace. Ma ripeto, se lì è l'autore che dice a me questo adattamento fa schifo, è lui che comanda. Cioè, a me dispiace che noi perdiamo. A me mi fa schifo, hai capito? Ho detto che mi fa schifo e basta. Però credo che sia veramente nel suo pieno diritto dire: io non voglio che la mia opera venga modificata così. Beh, io faccio un parallelo con, non so se vi è capitato di vedere, le ultime riedizioni di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. In cui, porco di qui, porco di là. A causa, credo, della perdita del master originale in italiano, il film è stato completamente ridoppiato. È stato scelto Pino Insegno per doppiare Indiana Jones e altri. Comunque non è una questione di perdita del master. Il problema non è necessariamente di un lavoro fatto male. Il problema è che per noi, che per 30 anni, 40 anni abbiamo visto, abbiamo ascoltato il doppiaggio precedente, ci piaceva, ci siamo assuefatti a quella voce associata a quel volto e comunque sia a quel film. Chi di noi conserva una copia fisica, per esempio, fino al DVD, se non ricordo male, c'era ancora il doppiaggio precedente, e può fare la differenza, può ascoltare la differenza. Per noi quel doppiaggio è un cazzotto alle orecchie. Che poi sia stato a causa di forza maggiore, e magari si sia cercato di fare il meglio possibile nell'interesse dell'opera nel suo complesso, io neanche lo metto in dubbio. Poi posso discutere sul fatto che invece di Pino Insegno si poteva chiamare un doppiatore abituale di Harrison Ford, non so perché sia stato scelto lui. Però io lì capisco che è stata una sorta di causa di forza maggiore. Però quando invece il doppiaggio è strumentalmente un danno all'opera, come diceva anche Carmine, nel caso del doppiaggio di Cannarsi dell'Evangelion della versione Netflix, dico: attenzione, lì non è detto che sia una versione da conservare, non è detto che ci debba essere memoria di un errore, perché quello fondamentalmente è un errore, in buona e in cattiva fede, ponderato o non ponderato, non lo so, ma quello è palesemente un errore ed è qualcosa che con pochissime eccezioni, o meglio, in quel caso, come in pochissimi altri, se sparisce forse è meglio. Vabbè, a me è impossibile fare una trasmissione con sto Discord, sì, cioè, per quanto no, ma era bello, secondo me era giusto finire io, chiudere la puntata direttamente. No, qua. No, ma no, perché cioè veramente non riesco. Beh, Simone, cioè, non posso fare moderazione. Secondo me Simone è caduto. Ecco, il cane l'ha mangiato. Allora, ragazzi, cioè, mi sentite? Se c'è anche Marco, Marco c'è? Sentite? Non lo so. Ecco, Simone. No, è ritornato. Mi sentite? Qua. No, allora, ragazzi, non lo so. Non so come funziona. Mi sentite? Sì. Ok. Io non posso fare moderazione con sto Discord, perché voi non mi sentite quando parlate. Quindi devo trovare un sistema. Sono andato sulle impostazioni che mi avete detto, ma ho visto che non solo non è cambiato niente, ma è anche peggiorata la situazione. Adesso l'ho rimesso in automatico, quindi è. Cioè, dobbiamo parlare una alla volta, c'è poco da fare. È veramente un grosso casino così fa una moderazione. Comunque, è un gran casino. Sì, un gran casino. Riguardo al discorso del doppiaggio Indiana Jones, che condivido al massimo proprio, perché comunque comunque, anche per quanto abbiano fatto un grandissimo lavoro riguardo a Pininsegno, a livello anche di equalizzazione della voce, che alcune volte nel timbro, nell'impostazione te la ricorda anche la voce originale, poi dopo quando vai avanti lo senti che Pininsegno e ti casca la magia. Però in quel caso è più una questione di diritti che è una questione di cancellazione della colonna originale, anche perché nelle versioni DVD, quelle da collezione, ci sono entrambi i doppiaggi, sia quello nuovo che quello vecchio. E questo è un fare un lavoro storico, cioè nel senso dare l'opportunità a comunque a chi vuole confrontare le versioni rispetto a quello che ovviamente è la versione magari precedenti. Sul discorso di Cannarsi, per quanto sia un errore è comunque un elemento storico. Cioè, se comunque quando Picasso ha fatto quel quadro, sotto al quadro ci sono degli elementi che ricordano il fatto che lui magari ha commesso un determinato tipo d'errore, è comunque un racconto storico, fa parte della narrazione di quel tipo di oggetto, di quel tipo di opera, di quel tipo di questione. Se Picasso l'ha fatto sulla sua stessa opera è un conto, sì, esatto. Non è che se io sono il carrozziere che ripara la Ferrari, la ripara malamente, non ho creato un esemplare unico che va preservato perché esatto. Unico, ho rovinato una Ferrari. Esatto, cioè bisogna distinguere, ha ragione, cioè un conto è un errore dell'autore e che va preservato, un conto è un inciampo di una distribuzione nazionale in Italia perché hanno sbagliato il doppiaggio. Però Carlo, tu capisco tu... che debba essere conservata pure per dire, cioè guardate che cos'era successo anche. Fatto perché esatto. Okay. Per deriderlo esatto. Al massimo perché, no, ragazzi, il quel problema ripeto, sono casi che non hanno senso compiuto, cioè capiamo che il problema non era ragazzi basta con cosa, non me ne frega un cazzo di questa cosa. Ritorniamo sul punto. Abbiamo capito che fa schifo quel doppiaggio, che lo odiate, e viva Evangelion, tutti quei piselli di fuori. Il discorso è un altro. Cioè, perché cioè, okay, procedo. Il discorso è che comunque è un elemento storico. Carlo, tu mi insegni che una copia fallata per colpa del distributore, un software uscito male per colpa magari di terze parti, roba del genere, diventa un oggetto anche da collezione, un elemento quasi unico che comunque va preservato, indipendentemente dal fatto che sia un'aberrazione. Le aberrazioni fanno parte della storia. Cioè, Probabilmente ci sono spiegato male, dipende, nel senso non è tutto così, poi bisogna distinguere il collezionismo dal racconto storico, okay, un conto il collezionismo, un conto... nel collezionismo vale anche il conservare la copia con la bandiera storta perché in Afghanistan è uscita così con la bandiera stampata al contrario, allora me la voglio conservare e sono un collezionista. Il racconto storico non esagera così, cioè non entra in questi dettagli così generalmente, anzi addirittura per quanto riguarda l'opera cinematografica o comunque l'opera d'arte in generale vale la versione dell'autore originale. Anche nell'opera cinematografica a livello storico quello che rimane è la storia del film, dell'opera originale. I doppiaggi sono diciamo casistiche locali, neanche diffuse in tutto il mondo, perché poi ricordiamo il doppiaggio esiste in Italia e in qualche altra nazione, ma non è una cosa che è valida in tutto il mondo. E che quindi sì, rimane con magari come oggetto di folklore. Io potremmo fare riferimento ai doppiaggi russi. Non è tutto preservazione storica. Probabilmente alcune volte nei miei infasi ti ho fatto supporre che qualsiasi cosa andasse. No, ma non è che me lo devi far supporre. Non è che me lo devi far supporre tu, Carlo. Cioè, non è che per me se quello che tu dici va bene, è giusto o sbagliato. Cioè, è un'opinione e che va confrontata. Io sono anche d'accordo. Se tu dici per me non è, basta, non è. Cioè non è che si discute più tanto, però non ritornando sempre su il problema è che in un paese come l'Italia appunto il doppiaggio e l'adattamento fanno storia, sono comunque elementi. Se io un giorno mi dovessi trovare a fare una scuola di adattamento più che di doppiaggio, attenzione, di adattamento a una determinata opera, che comunque è parte integrante dell'opera in qualche maniera, perché viene comunque anche approvata e coordinata spesso anche con l'autore originale e insomma con gli americani spesso e volentieri, soprattutto Disney c'ha voce in capitolo anche sulle le opere, che cioè su come vengono poi riadattate nei vari paesi a livello internazionale, no? Quindi oggi se io dovessi fare una lezione su una cosa, dicevo ragazzi, questa è una cosa che non dovete fare. Avere l'opportunità di avere l'accesso a determinate informazioni e che comunque quelle informazioni siano facilmente usufruibili, per me è comunque una situazione di vantaggio rispetto a chi fa questa cosa. Poi è chiaro che c'è sta anche, come dite voi, il marchio originale dell'opera, che dice raga, io questa bestemmia non la voglio vedere, cioè me la dovete proprio levare. E allora a quel punto è chiaro, devi alzare le mani. Però il concetto è, Simone, se l'adattamento per un motivo assodato di qualunque tipo finisce per danneggiare l'opera originale, come ti comporti? Cioè, infatti quelli loro sono intervenuti e comunque poi alla fine è stata presa una decisione. Però la decisione potrebbe anche essere quella di reintegrare il doppiaggio ufficiale, quello che Netflix e l'autore originale dell'opera considerano il doppiaggio ufficiale, e lasciare anche una colonna sonora a parte, separata, dove magari c'è un disclaimer, c'è una segnalazione, attenzione il doppiaggio errato, uno e anche una con le scoreggio soltanto, anche con le scoreggio, esatto. Secondo me fa sempre quella io l'ascolterei a rotta di collo, soprattutto con Evangelion, esatto. In particolare, cioè vedere il coso che parla e vabbè, se sono cose mie, vabbè, raggiungendo Icari e ti costringerà a guidare un robot. Esatto. No, comunque, ritornando al discorso delle opere, per esempio dei Kevin Spacey, e quindi al di là del comportamento di questo, vorrei sapere anche un po'. Cioè, lì, Simone, lì è un caso ancora diverso, perché poi non sono le opere di, sono le opere con, che è una cosa ancora più assurda. Sì, esatto. Però no, ma il bello che cioè non è che le hanno fatte sparire, cioè, no, a me quello che no le hanno fatte sparire all'inizio, poi dopo sì, all'inizio sì, poi piano piano anche se vogliamo tracciare un parallelismo, pian piano che man mano che la posizione di Kevin Spacey in tribunale si attenuava, ricompariva l'opa. A me la cosa che ha fatto spavento non tutto Carmine, perché sì, per no, esempio tutto, il film in cui lui interpretava Getty è stato rifatto, cioè sì, tagliando lui. Sì, è vero. Vabbè, oppure ad esempio House of Cards, ora che Netflix aveva preso in mano i diritti per l'Italia, per esempio, quindi avrei potuto finalmente vederlo, io non l'ho mai visto, non lo posso vedere. Secondo me è sopravvalutato House of Cards. Parecchio. Sarà, però ci tenevo a vederlo. Prime due stagioni belle. No, ma il problema di House of Cards, a me non mi piaceva quel genere, quello che hanno detto vabbè, non ve lo facciamo vedere. È stato l'inizio della quarta stagione, dopo che era successo quello che era successo a Kevin Spacey, in cui il personaggio è stato fatto sparire, dando una giustificazione meravigliosa, è morto, fuori scena. Sono memorie di sceneggiatura. Non hanno, in tutto l'episodio in cui si parla della morte del presidente degli Stati Uniti, legittimo e illegittimo che fosse in quel momento il personaggio, e non si vede una foto, un'immagine del defunto. Fanno vedere un funerale dove bara chiusa, non c'è una foto, non c'è un manifesto, niente. Commemorazioni completamente prive di riferimenti. Questa è la solita morale contorta tipica americano. Una volta che c'è un problema, allora via. Io guardavo quell'episodio e dicevo, vabbè, posso anche pensare che da un punto di vista della trama volevo fare il colpo di scena, ok. Ma minchia, manco l'immagine sulla lapide, cioè. Io però vorrei fa veramente spavento quella puntata. Vorrei anche puntualizzare una cosa che forse dal punto di vista storico forse ha meno attinenza, no? Però una cosa è, cioè, comunque modificare un'opera e vabbè, che allora noi possiamo esprimere, cioè, non è poi secondo me il compito di questo episodio esprimere considerazioni morali su come si comportano gli americani nel loro punto di vista del politicamente corretto. La cosa che secondo me a me a volte un po' mi raccapriccia è il fatto che dietro un film che tu fai sparire per, diciamo, accuse ricevute da parte di una persona che poi dopo, come abbiamo detto, quando poi piano piano in tribunale le cose cominciano a assumere una situazione diversa, diciamo che cambia anche la posizione delle major, delle etichette e via dicendo, però devi sempre considerare che dietro un'opera come un film, come una serie TV, e qui Alex vorrei sapere anche la sua opinione, ci sono delle maestranze dietro, ci sono della gente che comunque magari viene pagata sulle percentuali, su tutta una serie di cose che comunque vengono penalizzate dal fatto che tu un'opera prendi a un certo punto e la butti via, cioè nel senso, no, la butti via, forse è un'esagerazione. Alex, che dici? Dobbiamo ricordarci essenzialmente che però è il confine abbastanza labile, perché metti caso che tu ti chiami multinazionale della comunicazione con un topolino come idea, come logo, per dirti, non faccio nome a caso, e dici vado da questo regista e dico, facciamo un film così, figata, Disney, ecco qui un sacchetto pieno di petrol dollari per fare la tua roba. Allora, quest'opera di chi è? Del topolino o del regista? Perché questa è la cosa, cosa delicata. Noi ci abbiamo una visione prettamente europea su sta cosa e loro hanno una visione prettamente americana. Per noi... Ma è così anche in Europa, nel senso, in Europa in realtà che essenzialmente c'è una sorta di tradizione per cui è così, ma alla fin fine il confine è molto labile. E lo stesso David Fincher, che ha il final cut sui suoi film, se l'è guadagnato per certi versi, in un'intervista ha detto: io sì, ho il final cut, posso fare quel cacchio che voglio in questo film, ma non faccio quel cacchio che voglio, perché sono ben conscio del fatto che quest'opera è un'opera comunque collettiva, e sottintendendo dire alla fin fine la gente mi paga per fare sta roba qui, devo comunque fare una cosa che sia gestibile e non ammazzo il cane all'ultima scena. Questo è un riferimento a un film che non so se avete visto, con Robert Sean De Niro. Penn. È Sean Penn, no? Sì. No, non mi ricordo se è Sean Penn, il regista non è Sean Penn. Sean Penn non è l'attore con la scena del cane? O stiamo parlando di... Sì, Sean Penn, hai ragione, okay. Perfetto, bravissimo. Disastro a Hollywood, mi pare. Disastro a Hollywood, bravo, cacchio, che memoria. Ma si vede che tu lavoravi in una videoteca. Di molto dopo, però è un filmone, poco conosciuto, ma è un filmone. Sì, molto bello, fa molto capire... No, ho avuto questa immagine di Walter come Randall di Clerks. Niente, il ruolo non determina il comportamento, me lo sarei voluto tatuare. E comunque è un film molto bello che fa capire molto delle logiche che funzionano, con cui funziona l'industria del cinema, perché è un'industria. Dal mio punto di vista, è per dirvi, io in passato, quando ero giovane, ho fatto una litigata meravigliosa con De Agostini. Adesso lo posso dire, che sono passati più di 10 anni. Proprio col signor De Agostini. Un'inquadratura, esatto. E De Agostini mi ha detto: non mettere quella roba lì che la gente non lo capisce. Ma no, ma cacchio, ma non capite voi. Adesso non lo farei più, perché adesso mi rendo conto che c'è uno scopo, c'è un meccanismo, c'è una cosa per cui fare anche dei passi indietro. Nel senso, la mia non è un'opera, nel senso, come dire, cambierà la storia dell'umanità. Sì, è un'opera, qualsiasi cosa che io faccio. Però ovvio, Alex, non posso mettermi allo stesso livello di un regista che si occupa di arte, invece facevo un altro tipo di comunicazione. Cioè, nel senso, comunque facevi un lavoro commerciale, è un po' diverso, no? Nel senso, ma è sempre un lavoro commerciale, non è che il topolino ti dà il petrol dollaro per fare una cosa bella, ti dà il petrol dollaro perché vuole il doppio dei petrol dollari, punto. Eppure guardate che se andate la destinazione d'uso dell'opera che deve produrre. Esatto. Se andate su Disney Plus e andate a vedere i cartoni animati storici di Disney, quindi i primi cortometraggi di Topolino, ragazzi, è una roba d'un becerume. E lì il disclaimer sul fatto che prendono a calci in culo la mucca, o che alcuni animali sembrano i negri coi labbroni o roba del genere, non c'è sta, cioè nel senso... No, su tutti no, però per esempio su Dumbo pare che abbiano iniziato a metterlo in alcuni paesi, perché ci sono i corvi che erano... Delle caricature delle bande di ragazzi di colore. Non so sui cortometraggi se si sono sprecati a fare una roba del genere. Non mi sembra, però su alcuni cartoni animati stanno iniziando a perlomeno a dare un disclaimer. Partono dal presupposto che probabilmente quei cartoni animati non vengano visti da quelli che sono i bambini di oggi, che probabilmente cercano altro, ed è probabile che quei cartoni animati siano stati messi lì prevalentemente per gli adulti che se li vogliano rivedere. Però su alcuni pare che stia iniziando a spuntare qualche disclaimer iniziale. Dumbo sono sicuro. Io comunque ho l'impressione che oggi Arancia Meccanica non lo farebbe nessuno, cioè nel senso... Sarebbe noioso oggi Arancia Meccanica. Magari. Oggi questo sì. Questo è un po' cacciate comunque. Oggi sarebbe noioso, ragazzi. Non lo farebbe nessuno adesso. Boh, ragazzi, io passerei un attimo al software, così riconvolgiamo anche Carlo, che nel frattempo si è addormentato, giusto Carlo? Perché sì, stavo dormendo, esatto. Tutte le salsicce che ti sei mangiato oggi a pranzo, insomma. No! Triggerato Alex. Se non abbiamo giocato. Allora, abbiamo detto E però se vuoi approfondire anche un po' questo concetto, ma l'abbiamo già detto prima, no? Che è difficile oggi archiviare, storicizzare, ricostruire l'evoluzione di un software, no? Soprattutto sì, nell'era, e qui entriamo proprio nella fase in cui la distribuzione oramai è diventata totalmente digitale, no? Quindi non è che vai a comprare. Sì, sparisce il media, è questo il punto fondamentale. Che dal punto di vista, il problema è lo stesso di prima, non cambia. Cos'è che cambia? Cioè il fatto di preservare un'opera, bisogna comunque in qualche modo preservarla come si faceva prima. Il vantaggio precedente della distribuzione non diciamo completamente senza media, quindi non completamente digitale, era che comunque da qualche parte aumentava la probabilità, mettiamola così, la probabilità di salvare un qualcosa che veniva perso era molto più alta, perché comunque c'era una distribuzione molto più ampia di questo prodotto, ok? Se adesso io, quando si vendevano i videogiochi su floppy disk e uno lo comprava su floppy o su CD, ne hanno venduti milioni di copie, quindi da qualche parte, se anche diciamo la casa editrice originale non esiste più, l'archivio è andato distrutto, è andato in fiamme, il programmatore è morto, tutto quello che vogliamo, ci sarà qualcuno che ce l'ha, parte, certo, un dischetto con dentro sto gioco lo ritrovo, perché ce ne sono in giro tantissime copie, tra certo, originali, tranne se, originali, se sei gay hai fatto un gioco gay. Ah no, vabbè, no, no, però, poi ne parleremo di quella cosa, non oggi, non oggi, ma un altro giorno parleremo dei giochi. Parleremo solo di quella serie televisiva su Netflix, ragazzi, che veramente bisogna bestemmiare. Grazie a che Carlo ce l'ha fatta vedere sotto una luce completamente diversa a noi comuni mortali, quindi sì, sarebbe da approfondire. No, la facciamo la puntata, non ci so cavoli, insomma, vai, scusa. Facciamo la puntata sui giochi gay che sono gay. Sui giochi gay che non esistono, però lui l'aveva fatto il gioco gay, però vabbè. Dai, poi ne parliamo, dai. Vai, Carlo. Comunque adesso quindi la distribuzione come servizio, la fruizione del media tramite servizio, quindi senza il possesso fisico di un qualcosa, ci pone davanti al problema che la probabilità che questo venga salvato è molto più bassa, molto ridotta. È vero che adesso siamo ancora in un momento di transizione, come giustamente ha detto qualcuno prima, non mi ricordo chi, alcune serie di Netflix quando escono adesso comunque magari esce ancora il Blu-ray, esce ancora il DVD, quindi da qualche parte uno lo ritrova, ma se andiamo avanti, mettiamo il caso di una nuova, di un nuovo film, di una nuova serie che uscirà solo ed esclusivamente in streaming e non esisterà mai il media fisico di questa cosa, come sta per accadere? Fare in un futuro ad essere sicuri di ritrovare questa opera, che sia un film, che sia una musica, che sia un videogioco? Dovremmo averlo perché per culo qualcuno magari è riuscito a copiarlo e allora l'ha conservato, o se no sperare che gli autori originali, i produttori originali ne conservino per sempre una copia, cosa che come sappiamo bene è già successo e nessuno ci vieta che succederà ancora, che gli stessi autori o produttori la perdano per un qualsiasi motivo, distruzione volontaria o meno volontaria che sia del media originale. La maggior parte delle volte capita perché, apri virgolette, non è di mia competenza, chiudi virgolette, tipo non rinnoviamo il dominio mediaset.it, ma chi se ne frega, tanto ci penserà qualcun altro, cioè nel 99% dei casi i problemi derivano da questa roba qui. E in ogni caso quindi ci troviamo di fronte al doverla recuperare. La probabilità fino adesso, esistendo il media, era più o meno alta. La probabilità futura, non esistendo più media, è molto più bassa. Secondo me, Carlo, scusa, c'è un particolare da aggiungere, che fino a quando si poteva accedere a copie fisiche del media, diciamo l'uomo di buona volontà, l'appassionato, il museo locale, l'attività locale che voleva lavorare allo scopo appunto del mantenimento di queste opere aveva comunque la possibilità di accedere. Io immagino che anche se con tutta la sicurezza di questo mondo, negli anni a venire le major che producono solo per lo streaming dovessero conservare sempre e comunque delle copie del loro materiale, non è detto che poi darebbero accesso a chi ne fa richiesta. Assolutamente vero, e questo è un grosso problema. Infatti ci si sta nell'ambiente della preservazione del proprio museale eccetera, di chi fa ricerca, è un problema che ci si sta ponendo proprio in questo momento. Per esempio nell'ambito dei videogiochi il museo americano che si sta occupando della preservazione dei sorgenti, delle opere, abbiamo accennato nella puntata dei sorgenti Monkey Island, sta lavorando proprio in questo senso, sta andando dai grandi produttori storici dicendogli datele a me che io cercherò in ogni modo di conservarle e metterò su una struttura museale magari condivisa con il resto dei musei nel mondo e dei ricercatori in modo da poter conservare queste opere negli anni a venire. Ma stiamo parlando comunque di una goccia nell'oceano, perché stiamo comunque parlando della preservazione di qualcosa che magari è diventato famoso, qualcosa che è diventato riconosciuto e che quindi, ma per esempio il piccolo gioco sconosciuto che magari tra, io adesso quando faccio ricerca spesso mi saltano fuori delle chicche incredibili che nessuno conosceva perché per qualche motivo si è conservato il sorgente, il disco eccetera, e si scopre che magari una determinata innovazione nell'ambito dei videogiochi non è stata fatta grazie al grande successo, ma perché prima era uscito un gioco che non ha giocato nessuno ma che aveva già introdotto quel tipo di innovazione, per esempio, un esempio di questo tipo. Diventerà molto complicato in futuro. Quanti giochi sono usciti su Steam? Quanti giochi escono su Steam? Ah, non lo so, perché ne escono veramente... Ma c'è anche un problema appunto che la quantità di opere prodotte oggi rispetto agli anni 80, per esempio, immagino sia esponenzialmente maggiore, e conservarle tutte è un casino. Esatto, è un casino in tutti i sensi. Per esempio, volevo leggere la chat, oggi non l'abbiamo mai fatto, volevo approfittare un momento. Per esempio, in chat ci dicono, Roberto Tomaiolo ci dice che alcune serie, almeno in italiano, sono diventate introvabili. Ne cita due che noi che abbiamo l'età li ricorderemo, Max Sidrom e I ragazzi del computer. È vero, ma non solo, anche alcune trasmissioni. Per esempio, io sono anni che sto cercando di recuperare Beat di Luciano De Crescenzo. Trasmissione italiana, sì. Non lo trovi più, non c'è più. Strano perché la Rai ha sempre avuto archivi abbastanza. No, era della Fininvest. Allora, c'è roba che ha fatto sparire Fininvest. Tipo, pare che non sia molto facile recuperare le puntate di Emilio. Ah beh, ma lì bisogna capire. Sai qual è il discorso? Che spesso e volentieri la produzione era comunque gestita da service esterni e magari la conservazione dei master di quelle opere non era fatta direttamente, oppure si è deciso che era più importante utilizzare lo spazio a disposizione per un altro uso, e quindi si faceva magari all'epoca non si percepiva l'importanza storica che avrebbe avuto quel materiale nel tempo, perché probabilmente un'entità come la RAI, che comunque sia un'entità statale, aveva la lungimiranza ma anche l'obbligo tra virgolette di conservare delle cose, e invece una società privata non si era posta il problema, come noi da ragazzini non ci saremmo mai posti il problema prima di aprire la scatola di un giocattolo del fatto che vedi, se avessimo conservato il giocattolo in altre condizioni oggi varrebbe un sacco di soldi, no? Probabilmente il concetto è quello. Allora ragazzi, premesso che non so se siete arrivati al punto, perché mi sono dovuto allontanare un secondo, come sanno i miei colleghi, io invece partendo dal presupposto, no ma poi è una sciocchezza comunque, e partendo dal presupposto che oggi noi abbiamo utilizzato questo termine, no, che è damnatio memoriae, che con Marco ogni tanto utilizziamo, no, soprattutto perché in realtà è una pratica che nella storia qualche volta si è verificata, perché quando dai tempi dell'antico Egitto, esatto, quindi. Ma sì, esatto, dai tempi dell'antico Egitto, perché quando una società vuole per ragioni generali, diciamo così, per ragioni culturali o religiose, vuole dimenticare una cosa, fa in modo che la storia la dimentichi. Poi dopo questo in realtà non è mai così del tutto vero, e la stessa cosa in realtà succede anche oggi, no? Noi abbiamo comunque utilizzato un termine che è un po' altisonante, però è anche un po' esagerato. Però mi venne in mente questa cosa qualche anno fa, quando ci fu il fallimento di Telltale Games, no? Che voi sapete, Telltale era quella software house, per chi non lo sa, giustamente, suppongo in pochi, era quella software house costruita da alcuni esterni alla Lucasfilm, alla LucasArts Games, che tutti questi sviluppatori e creativi si sono distribuiti e sono andati a creare tantissime software house. La Telltale aveva questa particolarità di aver creato inizialmente delle avventure grafiche, diciamo, partendo dal presupposto similare da quello che era stato fatto praticamente come engine, quindi come concetto, avventura grafica di inquadrature in 3D, come era Grim Fandango, per esempio, ovviamente evolvendo il discorso, portando su schermo ovviamente diverse opere anche molto carine, e poi diciamo... E usando le stesse IP di Lucas? Due ne ho usate piuttosto. L'ho iniziato con Sam & Max. Sì, due, con, sì. Aspetta, la prima era Ritorno al Futuro. La prima fecero Ritorno al Futuro. Poi si ripresero. Diciamo che Telltale ha lavorato sempre solo su licenza. Però al di là di questa cosa qui, comunque Telltale a un certo punto, quando hanno cominciato a sfornare queste avventure narrative che avevano un po' saturato il mercato, e più che altro il loro costo di produzione era diventato superiore a quanto loro stessi incassavano, a un certo punto la casa è fallita. Chiaramente il suo store originale sul sito, quello di Telltale Games, ovviamente è stato chiuso. Quindi non era più possibile acquistare nessun tipo di prodotto, per ovvie ragioni. Alcune cose su Steam erano rimaste bloccate, e alcune cose su Steam sono completamente sparite, tipo Wallace & Gromit. Quando Telltale è fallita, era sparito dallo store, cioè dal catalogo, e da tutti gli altri cataloghi. Ovviamente se tu il gioco l'avevi preacquistato, cioè quindi già ce l'avevi, avevi comunque l'opportunità di installarlo, di avercelo in catalogo, ce l'avrai sempre. Chi invece il nuovo lo voleva comprare, non lo avrebbe potuto comprare, perché non è che non era acquistabile, non c'era proprio più. E questa è... Scusa Simone, più precisamente, perché ci sono passato con Tales from Monkey Island, mandarono una comunicazione agli utenti ai quali si dava un tot di tempo per scaricare una copia locale degli episodi acquistati, perché poi non avrebbero avuto più accesso. Sostanzialmente sullo store interno, dico, quello ufficiale del Tale, hanno fatto così. Infatti io ebbi tempo e opportunità di scaricarmi tutti quanti gli eseguibili dei 5 episodi di Tales from Monkey Island, e li devo conservare gelosamente perché non li potrei più recuperare altrimenti. Sì, diciamo, questo era sullo store di Telltale. Su Steam, se tu il gioco l'hai acquistato anche oggi, cioè nel senso anche ti garantiscono il download, tutto il periodo in cui il gioco comunque non era più in catalogo, non esisteva più, comunque se tu ne avevi acquistato la licenza avevi il diritto di poterlo scaricare, sempre, questo è sempre stato così. Però ovviamente non lo potevi comprare, cioè nel senso, se tu eri nuovo, ce la sai che voglio giocarmi il primo gioco della Telltale, che è stato Bones, oppure appunto Wallace & Gromit, no? Ma credo che questo valga in generale con le piattaforme digitali: anche se smettono di vendere un oggetto, tu che l'hai comprato per contratto, esatto, hai il diritto di scaricarlo anche dopo. Il problema è se la piattaforma dove l'hai comprato fallisce. Esatto, infatti questo grazie a Dio che è così. Oppure ecco, se è così ancora per poco, quando si passerà all'affitto non è più così. Esatto, infatti questa è la cosa che... Però comunque poi alla fine Telltale... E anche all'affitto, la fruizione a canone, perché in realtà tu non affitti neanche più. Vabbè, sì, tanto canone affitto più o meno, insomma, esatto. Però sì, comunque sì, è vero che anche giusto fa la specificazione. Però diciamo che Telltale poi è stata ricostituita, e alcuni titoli, anzi tutti i titoli, sono improvvisamente riapparsi nel catalogo. Io parlo sempre di Steam e di GOG, quindi degli store che sono extra lo store interno loro, no? Quindi proprio quello personale loro. E questa cosa a me mi ha fatto molto riflettere, perché poi in realtà è vero che la dannazio memoria è praticamente impossibile, però è vero pure che comunque un ragazzo 5 anni dopo che l'avevo acquistato io, che magari si approcciava ai videogiochi, era curioso di scoprire le avventure grafiche, non aveva l'opportunità di poterlo fare se questa situazione sarebbe perdurata, no? Fosse perdurata, anzi. E allora, cioè, alla fine la pirateria da questo punto di vista invece ci ha sempre messo una pezza. entriamo anche un po' su questo tipo di discorso qua, perché poi fino adesso sì, il problema è che non sarà così in futuro, cioè per non, sempre, esatto, in alcuni casi non è già così, come per esempio l'esempio che ho fatto prima, io nei giochi online tu non puoi scaricarti il gioco in locale, ma devi per forza giocare online, come per esempio Fortnite, anche la pirateria lì non ci può fare niente. Cosa puoi Fortnite fare? Ci giochi solo online, e tutti gli MMO online sono così, esatto. Cioè, a questo punto il problema si pone da Ultima Online, cioè già allora tu non avresti potuto giocare Ultima Online, una versione precedente a una data patch, semplicemente perché ti dovevi collegare a un server che prevedeva che il tuo client fosse patchato. Sì, cioè, anche tolti, cioè tolti di shard quelli... anche se vado a memoria, perché ragazzi posso anche sbagliare, però per esempio con Ultima Online o con i vari primi giochi che avevano comunque la possibilità di essere giocati in rete, tramite appunto il fatto che comunque ti scaricavi quasi tutto il gioco perché la rete, no, era lenta. Ultima no, Diablo, quello che dici tu si poteva fare con Diablo, eccetera, tu però anche con lo stesso World of Warcraft, ragazzi, ad oggi ci sono tanti server che ti permettono giocare le edizioni precedenti, tutti ovviamente, esatto, non perché ufficiali, perché ti potevi scaricare quasi tutto. Adesso invece non è più così, cioè il passaggio allo streaming, proprio dal punto di vista tecnico, il fatto che io non ho in locale quello che vedo. Io prima per giocare comunque in locale mi scaricava l'oggetto tridimensionale, certo, esatto. Adesso invece no, mi guardo uno streaming video di quello che sta avvenendo su un server sul quale non ho la possibilità di andare a farne una copia o di ricrearlo, eccetera. Quindi anche la pirateria da questo punto di vista non ci potrà più garantire il fatto di preservare una determinata opera, dal punto di vista dei videogiochi sto parlando, nel però, cinema e della musica ancora sì. Però la domanda che mi faccio io è: Carlo Sant'Agostino, il Carlo Sant'Agostino di 40 anni nel futuro, cioè nel senso fra 40 anni ci sarà un Carlo Sant'Agostino che fa quello che Carlo Sant'Agostino fa oggi con i giochi di 40 anni fa, o con, non con i giochi, con il software, con i computer, con quello che cazzo è, insomma, no? Quindi alla fine questo Carlo Sant'Agostino fra 40 anni avrà 10 volte, 100 volte più difficoltà rispetto al Carlo Sant'Agostino di oggi, visto e considerato che oggi alcune cose spariscono, poi riappaiono, però possono anche sparire per sempre. Sì, è per questo che mi preoccupa il fatto che dobbiamo impegnarci comunque a preservare adesso, scaricate il più possibile, ma comunque divulgare almeno l'idea del fatto che ci si pensi anche a questo. Il problema è l'ideale, perché dicevamo, esatto, in un'altra puntata sempre di un paio di settimane fa di Ludico Forum, che il problema è anche culturale, le nuove generazioni questa cosa non la sentono proprio. Sì, esattamente. Ma perché non c'hanno la percezione meno, però, da quel punto di vista, cioè nel senso non si rendono conto neanche, vabbè, poi soprattutto i giovani, come abbiamo detto mille volte, il ragazzino non ci pensa al fatto che le cose vadano storicizzate, così come non ci pensavamo noi da ragazzini, cioè nel senso che si cazzi dalla storia, cioè fammi giocare, no? Nel senso, poi alla fine... Esatto, ma il solo fatto che magari giocano a Fortnite col cellulare invece che col computer, quindi in condizioni estremamente sfavorevoli da un punto di vista pratico, e la dice lunga sul loro modo di percepire l'intrattenimento e lo strumento adatto ad intrattenere. Per loro ormai è tutto fruito tramite un unico schermo e il media, ma anche addirittura lo strumento, sono soltanto funzionali a quell'esperienza di quel momento. Ma anche perché è cambiato anche l'approccio all'intrattenimento. Adesso fatemi far l'anziano. Noi volevamo giocare per giocare, adesso la gente gioca per poter condividere l'esperienza di gioco. Cioè, immaginatevi un gioco che non vi permette di postare video su YouTube, di non postare immagini su Instagram, di non postare roba su Snapchat, su tutti i social. Quanti lo giocherebbero? Cioè, noi vecchi di merda lo giocheremmo. Cioè, capisci che fare una cosa in cui non puoi condividere l'esperienza, che è la parola d'ordine purtroppo di questo millennio, o meno di questi primi vent'anni di questo millennio, cambierebbe. Di conseguenza il fatto di possedere il gioco, anche il fatto stesso di giocare, passa in secondo piano dal aver la necessità di raccontare l'esperienza del gioco, per cui che me ne frega di se non c'ho il gioco, l'importante è che in questo istante più presto possibile riesca a far vedere al mondo che lo sto giocando. Questo vale per tutte le cose, che sia Sono andato al cinema a vedere un film in anteprima, cinema quando si potrà andare, se si tornerà. Sto guardando la l'altra sera hai detto che il cinema non esisterà più. Su Twitter, al momento in cui vedono le cose, perché così dimostrano di essere i primi a vederlo. Cioè, è cambiato anche la cosa, di conseguenza che te ne frega di possedere un DVD, un Blu-ray, un qualsiasi cosa di fisico, quando poi non hai più, cioè la tua necessità non è vedere la cosa, ma dimostrare che lo stai vedendo. Ma tra l'altro c'è anche un altro aspetto, che c'è talmente una bulimia di contenuti che prima non c'era, che la necessità o la voglia di rivedere la stessa opera probabilmente sarà inferiore in futuro. La volatilità di certe opere secondo me sarà maggiore. Nel videogioco non lo so, però nel cinema e nella TV sì. Ma anche nel gioco ci sono poche persone che molti ragazzi che si mettono a rigiocare lo stesso gioco. Io parlo del single player, il multiplayer, lì è proprio ripetizione, grinding, farming, eccetera, eccetera. Però nel single player, quanti ragazzi si vanno a rigiocare lo stesso gioco più di una volta o due? Vabbè, io a parte qualche avventura grafica in cui ero proprio in fissa, devo dire che è difficile che abbia rigiocato un gioco qualunque esso fosse, neanche quando giocavo tanto. Però guarda, io tendenzialmente non li rigioco i giochi, tendenzialmente, devo dire, ma proprio storicamente, anche perché soprattutto i giochi narrativi mi piace che, cioè io ho sempre questo approccio, questo legame col cinema purtroppo che non riesco a svincolarmi, no? Quindi mi ha raccontato quella storia, non voglio che mi racconti un'altra storia, cioè nel senso non è quella la storia che mi ha raccontato, no? Quindi non vado a cercare gli altri finali come fanno tanti altri, no? Non anch'io. Però è vero pure che ci sono dei giochi che ho rigiocato riccamente, insomma, e Fallout è uno di questi, insomma. Invece per esempio il film, se ci è piaciuto lo vediamo, lo rivediamo, esatto, lo rivediamo, sì. Cerchiamo i particolari. Vabbè, è vero che l'impegno in un videogioco è diverso da quello di un film, e te porta via un'ora e mezza. I giochi, sì, magari come quelli che gioco io, cioè io Pillars of Eternity, alla fine il primo che ho finito 3 settimane fa, alla fine sono 170 ore di gioco. 170 ore di gioco, ragazzi, so. Beh, tantissimo per la media di oggi, è un abominio. Oggi un gioco dura 20 ore se sei fortunato. Sì, no, ma poi questi giochi di ruolo ipernarrativi che alla fine comunque ti portano a veramente 170 ore, sono un vado incontrollabile secondo me, anche per un super appassionato, insomma. Comunque ragazzi, vabbè, questo è un po', io vorrei sapere un'opinione finale da parte di tutti su questa cosa della dannazione memoria, e poi con Puccio andiamo a parliamo 2 o 3 libretti, così che c'hai 60 puntate. Ah sì, ce li ho. Okay. Quindi partiamo da Carlo. Ma allora, anche adesso, nelle ultime discussioni, siamo andati anche a parlare di quella che è la fruizione da parte dell'utente dell'opera, che il videogioco, lo rigiochiamo più o meno lungo, eccetera. Diciamo che questo con la dannazione memorie, per me almeno. No, per no, me, va bene, questo non c'è trava niente. Vedere, no, nel senso, a me interessa che l'informazione in qualche modo sia preservata. E per fare questo, purtroppo adesso, per il modo in cui avremo in futuro di fruire l'opera, questa dovrà essere molto più responsabilità di chi l'opera la fornisce, piuttosto di chi invece è appassionato e la vuole conservare. Prima l'appassionato che la voleva conservare aveva le possibilità di poterla conservare, adesso questa possibilità gli verrà praticamente tolta. E quindi, per forza di cose, dobbiamo in qualche modo, almeno chi questa sa, quindi non certo i ragazzi giovani che giocano ai videogiochi, che non gliene frega niente del fatto che questa opera, non si pongono neanche il problema che tra 40 anni ci sarà un mio simile che farà una ricerca storica nell'ambito della storia del videogioco o qualsiasi altra cosa, ma deve essere ovviamente una, diciamo, deve essere sentita a livello di produzione, quindi a livello di chi il gioco produce, di chi lo programma, di chi lo produce, chi lo fa, e probabilmente magari con l'aiuto anche di una maggiore cultura generale nell'ambito del videogioco e della storia del videogioco stessa, anche chi dal punto di vista professionale, quindi i musei che stanno nascendo e che nasceranno di storia del videogioco e di storia dell'informatica, di agire verso i produttori in modo da poter fungere come, diciamo, funzionalità di memoria storica di quello che sta avvenendo, in modo che in futuro non si perda non se ne perda la conoscenza. Ecco. Quindi tu dici scaricate. Ma solo per uso personale. Si può, se uno deve scaricare lo fa, il problema è che non si potrà più. Non si potrà più. Ecco, una cosa fondamentale prima che la volevo dire, poi mi sono dimenticato. Ecco, spesso quando parlo di pirateria, molti, io spesso ho fatto degli interventi sulla pirateria, molti mi sentono dire giustamente cose molto negative sulla pirateria, soprattutto italiana, che c'è stata negli anni passati in Italia e in generale. Allora, il mio giudizio sulla pirateria va nettamente diviso tra quella che è la pirateria endemica, quindi quella che ci sarà, c'è stata e sempre ci sarà, cioè il fatto di poter conservare anche dal punto di vista legale, diciamo, la copia personale, o comunque la pirateria senza scopo di lucro, cioè quella che tra amici mi scambio la cassetta del videogioco dell'epoca, da quello che invece è un utilizzo negativo della pirateria, cioè la pirateria industriale, cioè fare copia e pirateria per guadagnarci sopra. È questo. Ma certo. L'utilizzo negativo della pirateria. Certo, cioè, la pirateria tu dici... sempre invece dal punto di vista della conservazione ha sempre avuto un'accezione positiva. Va bene, la funzione etica della pirateria sta al fatto che comunque permette la circolazione di materiale che altrimenti in alcuni casi potrebbe andare anche perduto, insomma, comunque, o anche sottovalutato. Bene, no, infatti sono d'accordo. Alex? Io stavo pensando a una cosa, non posso fare un piccolo aneddoto, poi vi lascio stare. Fai quello che ti vale. Quando al cinema, adesso faccio un esempio di un film, però sono tanti film che mi ricordo così, King è stato Roger Rabbit, io sono rimasto estasiato dicendo che figata, vorrei rivederlo subito, e mi sono detto quanto tempo ci vuole prima che arrivi in videocassetta, un annetto, ho detto cacchio, un anno, come farò un anno senza rivedere questo capolavoro, poi l'ho rivisto nel cinema un'altra volta per gusto personale. Cioè, allora ero giovane e avevo la voglia di possedere qualcosa perché non avevo la possibilità di rivederlo. Adesso che ho a disposizione strumenti di accesso all you can eat, finisce che guardo qualcosa ma non me ne frega niente di pensare di poterlo rivedere, perché sono sicuro di poterlo rivedere. Ma forse anche il fatto stesso che il mondo pian pianino si è trasformato e si è evoluto, un sacco di opere, come dicevo prima, sono... già pensate all'origine per essere fast food, cioè nel senso le guardi una volta e poi basta. Ho la curiosità di rivedere il Avenger come si chiama? Endgame, perché l'ho visto al cinema e vabbè, ero andato al cinema talmente carico, vediamo questo capolavoro, sì vabbè, carino, cioè, prima o poi mi farò una settimana di Disney Plus e mi guarderò anche questo, per dire. Ma non è così, così vincolante, perché forse sono più anziano, probabilmente esatto. Sono vecchio di merda, ma la stessa natura delle cose, nel senso, quando io vedo un film so già che sarà una cosa liquida, e per cui c'è, cioè, nel senso, un po' come dire, scelgo di non innamorarmene. Una mia ragazza mille anni fa mi disse una volta: non puoi scegliere di chi innamorarti, ma puoi scegliere di chi non innamorarti. Io l'ho sempre presa come una sorta di cazzata, però in realtà è vero, cioè vado al cinema, scelgo di non innamorarmi di un film perché so già che non potrà mai essere mio, e allora lo vivo in maniera così distaccata. A volte mi diverto, a volte sono contento, la maggior parte delle volte guardo un film e dopo 10 minuti che l'ho visto mi sono già dimenticato di cosa parlava e mi sono divertito quelle 2 ore e basta, va bene così. Sarà anzianità, probabilmente sarà anzianità, però credo che anche il nostro modo di porci nei confronti delle cose sia cambiato, e credo che chi è nato in un periodo, nel mondo all you can eat, dove tutto è disponibile ma niente, cioè puoi guardare tutto, niente quello permanente, che vuoi, ma non puoi toccare, non puoi portartelo a casa, abbia comunque un approccio di questo tipo nei confronti dell'opera con la O minuscola. Su questo, scusami, faccio solo un esempio: ho una figlia di 20 anni e per me non è così, perché guardo lei, e a me per esempio i musical mi fanno cagare, io odio i musical. Anche io, brutta persona, lo sapevo. Anche io, siamo tutte brutte persone. Anch'io. Basta. Musical non mi piace. Lei invece ama i musical. Lei ha visto, come si chiamava quello recente musical? Quello, non mi ricordo neanche il nome, dai. Ne parlano tutti, quella che balla. La La Land, bravissimo. Ha vista tipo 14 volte quel film lì. E vabbè, quello puoi odiarlo per altri motivi, no? Comunque lei gli piace, l'ha visto 14 volte, quindi vuol dire. Ma si è comprata dei Blu-ray? ha comprato di tutto, compreso disco in vinile ristampato, per dirti, cioè della colonna sonora di La La Land, qualunque cosa. Io l'ha visto 15.000 volte. Vabbè, questa è maniacalità, però cioè. Come lei ci sono tanti altri ragazzi che è comunque una questione di vecchia. Ma considera che è figlia tua, per cui comunque qualcosa di particolare ce lo deve avere. Cosa deve sbagliato ci deve stare. Le sue amiche ci sono tante, cioè, magari così. A 20 anni la possiamo anche considerare nativa digitale, ma non è ancora di quelle generazioni nate con no, è nata nel 2000, fai conto. È nativa digitale, dico, però non è una di quelle generazioni che sono nate quando c'era già solo Netflix, per farti capire, cioè i decenni di adesso hanno 10-11 anni. Quando avranno 20 anni probabilmente non faranno quello che ha fatto tua figlia adesso, quello voglio dire. Per me sì. Speriamo di sì, però sono scettico. Vabbè, purtroppo... Walter, ti faccio un esempio. Io c'ho una bambina di 5 anni che alcuni film li rivede a ripetizione. Cioè io non so quante volte abbiamo visto Ralph spacca tutto 1 e 2 nelle ultime 2 settimane. Perché, vabbè, perché ma i bambini che vuol dire? Pure Matteo si è visto gli Aristogatti 60 volte, che alla fine la videocassetta non è più uscita dal videoregistratore. No, ma è normale. Poi i ragazzini vanno in fissa perché trovano la cosa che imparano, che comunque la ripetono, la cantano e via dicendo. Comunque, Marco, il tuo parere finale. Non possiamo conservare tutto. Questo dobbiamo purtroppo farci i conti. È sempre meno questa è cosa. Sempre meno, e un giorno ci sarà il Carlo Sant'Agostino che cercherà di trovare, ricordare cose, di mettere da parte cose, ma non potrà farlo perché sono completamente perse le informazioni e perlomeno il fatto che non sa che sono andate perse. Come lacrime nella pioggia. Non lo farà stare meglio, perché non ne saprà neanche dell'esistenza. Va bene, che bellissimo intervento che hai fatto. È pregno, vero? Sì, proprio pregno, sì. Walter, vai. Dopo l'intervento di Marco è difficile. È tosta. Però, io ci metterei una scoreggia. Sul discorso non ritorno, l'ho detto mille volte che sono un sostenitore della copia fisica e anche vivo il problema del non possiamo conservare tutto da pseudo accumulatore compulsivo, perché mi rendo conto che a un certo punto lo spazio è finito e quindi a un certo punto ben vengano certe rinunce e ben venga il digitale. Però quantomeno io per il fenomeno della dannatio memoria metto un attimino sottolineo invece la parte relativa che dicevamo al fatto che si cancellino parte di certe opere perché ritenute oggi offensive, o si facciano sparire delle opere perché la vita privata dei protagonisti hanno in qualche modo influenzato l'opera stessa. Ecco, speriamo che questi fenomeni smettano prima possibile, perché non hanno a che vedere con l'opera in sé, e non è giusto che si tolga un'opera dal contesto in cui è stata creata originariamente, altrimenti dovremmo anche far sparire certe opere d'arte che rappresentavano l'uomo come era 2000 anni fa, come sarebbe adesso, perché diventa anacronistico. 2000 anni fa l'uomo era quello, si rappresentava in quel modo. Negli anni 40 in Via col Vento si narrava secondo quella che era la percezione dell'epoca, della cultura sbagliata, ma di quell'epoca. Lasciamola intatta. Posso accettare il disclaimer prima, appunto perché l'ignoranza galoppa, e quindi tanta gente forse ha bisogno di ricevere questo presupposto, questo preambolo, però limitiamoci a quello, non tagliamo, per quanto mi faccia schifo dirlo, non tagliamo Trump da Mamma ho perso l'aereo 2, perché nell'opera c'era. Tagliamo Trump direttamente. Tagliamo Trump, ma lasciamo che la gente si ricordi di Trump come il cameo di Mamma ha perso l'aereo, piuttosto che il presidente degli Stati Uniti. E quindi damnatio memoria come presidente degli Stati Uniti, esatto. E quindi Biden è il 45esimo presidente degli Stati Uniti a questo punto. Ma quanti ne vuoi? Sì. Comunque questa nella storia non è una novità, perché le foglie di fico sopra le statue che avevano il pisello di fuori le ha messe. Va bene, ok. Tolte, rimesse. Ok, questo sono assolutamente d'accordo, ma poi soprattutto nessuno si è... Già un miracolo che i papi non dissero scalpellate via i piselli col martello. Lì era un po' diverso, però sì, comunque il discorso è che, per esempio, nessuno ha chiesto a Dio se si sente offeso di essere rappresentato come un vecchio barbone, cioè, o come un triangolo, o un triangolo con un occhio, per esempio, perché altrimenti dovremmo fare il disclaimer sulle opere dove Dio è rappresentato in quel modo. Ma nessuno gliel'ha chiesto, perché non risponde mai, se saranno anche stufati. Esatto. Anche perché se inizia a rispondere potrebbero essere cazzi. Esatto. Puccio. Allora, mi riallaccio un attimo ad Alex, che stava dicendo che lui, per esempio, guardando Roger Rabbit, pensava chissà quando potrò rivederlo. Io ho avuto fenomeni in cui sono stato al cinema e ho detto è stato così bello vederlo al cinema che non sono sicuro di volerlo vedere in un altro contesto. Cioè, tipo, ci sono stati due o tre film, non vi mettete lì, Bastardi senza gloria di Tarantino, non so per quale ignoto motivo, dopo averlo visto ho detto io non voglio mai vederlo mai più se non in un cinema. Cioè, mi era piaciuto talmente tanto l'idea di vederlo lì che mi ero innamorato di quello. Però appena è uscito in Blu-ray sono corso e me lo sono andato a comprare. Mettiamola così, io dal punto di vista del software sono abbastanza fiducioso che ci avviamo verso un futuro in cui quasi tutto sarà perlomeno preservabile in qualche forma. Penso che esisteranno delle nicchie di mercato che non potremo preservare, che sono i giochi esclusivamente online, tipo Fortnite, tipo alcuni. E vabbè, ce ne faremo una ragione per quelli, dai. Come? No, ce ne faremo una ragione. Nel senso, giocati solo in multiplayer, giocati solo da persone che non stanno nella stessa stanza, sperabilmente, ha anche un senso relativo preservarlo. Certo, fa ridere dire non interesserà a nessuno tra 3 anni un gioco che ora fa $1 milione all'ora, però è anche probabile che sarà superato da qualcos'altro. È normale che sia così. Per tutto quello che riguarda invece gli store digitali, io sono molto tranquillizzato quando ho letto un post di Gabe Newell che spiegava cosa poteva succedere se Steam fosse stato costretto a chiudere, quindi che avevano già previsto l'eventualità, che avevano tutta una serie di switch per rendere i giochi scaricabili e fruibili senza il collegamento a internet, quindi solo nella modalità offline. Quindi penso che ci avviamo in una direzione più o meno giusta. Vabbè, Gabe Newell l'ha detto perché è anche marketing, ma poi se mai disgraziatamente dovesse succedere, che ne sai? No, ma in realtà quella, se lo vedi, c'è già in pratica la possibilità del gioco offline, ce l'hai da qualche anno in realtà. Il problema sarà che devono farla diventare lui parlava di una specie di switch logico. In pratica dice, se noi sappiamo che dobbiamo chiudere, avvisiamo ovviamente, vi scaricate quello che vi dovete scaricare, vi potete fare il backup, e la modalità predefinita di Steam diventerà quella offline. Lo streaming no, cioè lo streaming ovvio. Metti che esce un gioco in esclusiva su Stadia. No, metti, succederà, cioè l'hanno già annunciato. No, ma già c'è un gioco in esclusiva su Stadia. Ma difatti dicevo, gli store digitali sono una cosa, gli streaming e penso anche giochi esclusivamente online, tipo il già troppo citato Fortnite. Penso che tra virgolette ce li perderemo, nel senso che magari ne avremo testimonianza in altra forma, ma non in una forma giocabile. Beh, comunque c'è già un gioco esclusivo in Stadia, mi pare, no? Giusto, Walter, se non sbaglio, c'era quel giochino della ragazzina. Anche, no. Sì, ma sono giochini abbastanza piccolini. No, vabbè. Però sono cose che non troveremo, cioè non avremo mai la possibilità di avere sui computer, perlomeno a meno che io. Forse presumibilmente no, però anche lì non escludo nessuno. Certo, bisognerebbe leggere i contratti che accetti quando il gioco su Stadia lo compri. Perché magari sotto sotto c'è scritto che il tuo diritto di possesso ti renderà disponibile una copia privata in caso di chiusura di Stadia, oppure ci potrebbe essere scritto, guarda che tu acquisisci una copia ma il tuo diritto finisce quando finisce Stadia. Bisognerebbe vedere che c'è scritto lì, non lo so. Bene, no, allora ragazzi, io direi che abbiamo più o meno espresso delle considerazioni, abbiamo dato degli spunti di riflessione. Noi, come io e Alex vi insegniamo da oramai 10 anni di podcast, noi non vi diamo delle risposte, non abbiamo l'intenzione di farlo e non siamo neanche ce le guardiamo anche capaci, quindi noi chiudiamo come Giacobbo, forse non lo sapremo mai, esatto, cioè nel senso, comunque noi abbiamo dato degli spunti di riflessione magari anche con punti di vista diversi, anzi diciamo che io mi scuso anche per un velato nervosismo che è dovuto insomma dalla tanta stanchezza e dal fatto che questo cazzo di Discord non mi permette di fare una che ce l'ha con te Discord, una moderazione, devo trovare perché la stessa cosa ce l'ho avuto giovedì con Carlo Sant'Agostino e Roberto, è stato un delirio, cioè loro non se ne sono accorti ma io dietro stavo lì al microfono e bestemmiavo, quindi ma lo sono stati bravissimi. Allora Puccio, facciamoci i libretti, sti libretti, così poi andiamo a chiudere il programma mentre sentite Scozia che vuole dire la sua, nel mentre mi ha leccato la faccia. È una cosa che io ho sempre detto, questa cosa non succederà mai nella mia vita. Abituati. Esatto, e dopo 24 ore di cane sei già... Ti stai depizzizzando, io ti avviso. Che schifo, mi fa schifo. Simone, domani ti dorme nel letto, ti avviso. No, no. Finché non gli caga nel letto, va bene. Non ci arriva perché è stracucciola, quindi... 24/48 ore te la trovi nel letto. Ho detto, e non so se i gatti sono d'accordo. Poi io gli ho detto a mia moglie: ma questo cane puzza di cane, cioè, che vuoi dire che puzza? E aspetta che piove. C'è sempre il ristorante cinese, l'opzione. Sì, sì, per me. Vai, Carmine. Scusate, vi ho perso per un attimo. Vai con i libri, veloce. Un recupero della puntata ultima scorsa sugli engine di gioco. Allora, ho scoperto che non è più facile trovarlo in italiano perché credo che Multiplayer Edizioni abbia smesso di ristamparlo. Però vi consiglio tantissimo Masters of Doom, che è sostanzialmente la storia dalla nascita di Id Software fino alla sparizione di Romero dalla stessa. In realtà va un po' oltre, perché poi parla dei progetti personali di Romero. Ha attinenza con l'argomento in sé, perché viene dato molto spazio alle idee di Carmack, che poi sono diventate realtà, di creare un engine di gioco che poi potesse essere riutilizzabile su più progetti differenti, quindi dal progetto di Doom per arrivare poi a tutti gli altri giochi di software, partendo dall'engine made in Carmack, che poi ovviamente si è portato dietro nel corso degli anni. Ripeto, non è più facilissimo trovarlo in italiano, però è un libro abbastanza scorrevole anche in inglese. Se avete molta fortuna lo trovate su eBay, ogni tanto ne compare qualche copia così a spot su Amazon. Per quanto riguarda la puntata di oggi, in realtà non sono riuscito a trovare un libro in particolare che potesse andare molto bene sulla Damnatio Memoriae, perché in realtà il libro che più si avvicina all'argomento che abbiamo trattato, ne abbiamo già parlato, è quello che è uscito per Bitmap Books sui giochi che non sono mai stati pubblicati e che in molti casi ci si è sforzati di far sparire dalla memoria del pubblico. In realtà l'unica collana che ha una certa attinenza non è più tanto libresca quanto video, nel senso, poi linkerò il canale. James Rolfe, che è l'attore che sta dietro al progetto dell'Angry Video Game Nerd, ha fatto una serie di video un po' più seri in cui parla di giochi magari spesso usciti in maniera non ufficiale o abbastanza piratesca, soprattutto in epoca Nintendo, che sono stati oggetto di cause legali o di dispute legate al copyright o spesso a veri e propri casi di censura, che nel corso degli anni si è cercato di far sparire. Un esempio su tutti erano i reskin porno dei Bible Games. Oppure, vabbè, il mai troppo citato... Qualcuno ha detto forno? Sentito il forno? Lo stupro delle forno. Indiane, eccetera, eccetera. C'è soltanto un libro che ha trattato in maniera molto molto molto molto molto molto molto vaga il concetto che abbiamo toccato oggi. Io vorrei farvelo vedere, ma grazie a Dio non ci abbiamo più la webcam, che è The Ultimate History of Video Game, dove vengono citati alcuni giochi da sala prevalentemente, che sono usciti nel periodo d'oro degli arcade americani, avevano tematiche più o meno sessuali e sono state poi fatti ovviamente sparire, e di cui è anche difficilissimo, se non impossibile, trovare la ROM. Senti, ma sta cosa, al di là che ci hanno fatto il documentario, non c'entra niente, scusate Carlo, al di là del fatto che ci hanno fatto il documentario, ma è vera sta storia che hanno sepolto sti cazzo di Atari 2006, come ci dice Roberto Domaiolo? Sì, hanno, sì, sepolto, certo. Hanno sepolto le cartucce di ET, mica Atari. No. Pure gli Atari? Tutto, allora. Tutto, hanno sepolto anche le persone. Allora, la leggenda urbana cos'è? Che hanno sepolto solo gli ET e che era tutta colpa di ET. Non è questo la verità. E.T. ha avuto la sfiga di uscire nel periodo in cui c'è stata la grande crisi di Atari, ma non è stato E.T. la colpa della crisi di Atari e della chiusura dell'Atari Games e della sua vendita da parte della Warner Bros. E di tutto il disastro che è successo negli Stati Uniti con la chiusura di Atari, che è stato chiamato il videogame crash, che però in realtà andrebbe rinominato con Atari Crash, perché alla fine quello fu nell'84 la chiusura dell'Atari. E il punto è che c'è veramente questo deposito deposito, questo, diciamo, questa come si, discarica dove è stato buttato il materiale, ma si trattava di un magazzino dell'Atari con all'interno stoccato un sacco di materiale invenduto prodotto da Atari, ma di tutto, un materiale cartucce, tra cui c'erano anche cartucce DT, ma tutte cartucce dell'Atari, joystick, console, la qualunque, che quando l'Atari si trovava in difficoltà finanziarie, fallita, eccetera, eccetera, stava per chiudere o comunque essere venduta dalla Warner Bros., si decise di questo magazzino di materiale invenduto di eliminarlo, perché per questioni economiche era più conveniente distruggere il materiale piuttosto che riciclarlo, rimetterlo in vendita, eccetera. Certo, e certo, no, si prese questa cava nel New Mexico, i camion da questo magazzino partirono, buttarono tutto il materiale dentro questa cava, che poi fu ricoperta all'inizio di terra, ma siccome solo con la terra la voce girò tra i ragazzini del New Mexico dell'epoca e molti andavano lì a scavare per tirar fuori le cartucce e i joystick, allora a un certo punto l'amministrazione comunale decise di farci sopra una colata di cemento, quindi fu ricoperta due volte, prima con la terra, poi con una colata di cemento. Questo fu riportato nei giornali dell'epoca e poi divenne la famosa leggenda di Atari, siccome non vendeva ET, allora buttarono tutte le cassette di ET dentro lì dentro. Vabbè, poi ci hanno fatto il famoso documentario di Microsoft che abbiamo visto, insomma, era Microsoft. Esatto, che quando ritornarono lì ebbero il permesso da parte della città di poter scavare in questa discarica per un breve periodo e recuperarono tutta una serie di cartucce che si vede nel documentario, che non sono solo ET, tirano fuori di tutto, cioè tutto materiale buttato, schiacciato e cementato sopra dalla... va benissimo, ritorniamo a Puccio, così chiudiamo la puntata. Io racconto soltanto un aneddoto stupido. In Westland 2, sì. Come tutti quanti i giochi di ruolo, quando tu apri una cassa di solito fai prendi tutto, no? Non lo devi fare sempre, però non lo fate sempre, perché in Westland 2 c'è l'opportunità di arrivare in un punto desertico dove trovi una cassa, tu la apri e ci sono 25 cassette di ET della... No, ce ne stanno 300. Ce ne stanno 25, perché la schermata ti fa vedere 25, cioè il blocco che ti fa vedere, in realtà sono 100 pagine di 25, quindi tu prendi tutto, lui le prende tutto e il personaggio non si muove più. E la perché è appesantito. E la cosa bella è che per scaricarle le devi fare uno per uno, quindi è un delizio, cioè devi ricaricare praticamente. Insomma, se era tanto che non salvavi, eri un po' un coglione. Va bene, detto questo, Puccio, vai, così chiudiamo. Guardate, vi ho perso per un attimo, sempre causa, credo, Discord. Ok, dico vai, così chiudiamo, dico. No, cioè io ho concluso sostanzialmente. Chiudiamo, bravi. Questi titoli libreschi in ambito Damnatio Memoriae. Benissimo, allora poi Puccio mi manda in chat i link, così li metto nella puntata che uscirà, insomma, entro stanotte uscirà, insomma, quindi state tranquilli che la troverete nei vostri fantastici film. Però se vogliamo essere fedeli a noi stessi, magari questa potrebbe andare persa. Potrebbe andare persa questa puntata, esatto. In effetti. Allora, io ringrazio e saluto Alex Raccuglia. E io ringrazio e saluto voi e soprattutto te, Simone Pizzi, ti lovo tantissimo. Bene, mi fa piacere. Alex Raccuglia, che lo trovate ogni lunedì mattina con Tecnopilz, che esce alle 6 nel feed RSS del suo podcast, che è Tecnopilz, appunto, oppure lo trovate, insomma, tra i show di Runtime su Spreaker e su runtime.it. E oggi c'è stata la diretta del vino, che però purtroppo non ho potuto seguire. Il vino lo porto io. Alex, quando esce in podcast? Allora, la puntata uscirà fra un paio di giorni ed è la puntata di presentazione della seconda stagione, in cui affronteremo invece la cucina etnica e l'abbinamento con vini italiani e anche vini stranieri. E una delle primissime puntate, se non la prima puntata, sarà l'abbinamento del vino con il sushi. Figo, bello, allora... Con il cane. Con il cane, sì, no, quello lo faccio io dopo, la seconda puntata. Mi invitano a me, chiaramente. Ringrazio e saluto Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, non mi ricordo più quando sarà la prossima puntata di Ludica, di cosa parlerà. Vabbè, poi lo diciamo. Comunque, Carlo Sant'Agostino, ricordatevi che giovedì abbiamo fatto una live di archeologia informatica dedicata ai supercomputer nella storia della fantascienza cinematografica, e la trovate già nei feed RSS di archeologia informatica, ovviamente su Spreaker, negli show di Runtime, oppure www.runtimeradio.it. E poi la prossima settimana lavoreremo a un prossimo episodio di archeologia videoludica. Ringrazio e saluto anche Walter Sbano. Ragazzi, io ringrazio e saluto voi, grazie per la compagnia che ci fate, spero di essere nel mio piccolo una compagnia per tutti voi, e buon proseguimento. Walter Sbano, che ci rincontriamo lunedì sera a OGM, come tutti i lunedì alle ore 21, e ce ne so sempre delle cose da dire, ragazzi, come al solito non c'è una settimana dove il mondo non ci lascia mai non ci lascia mai in pace, soprattutto in quella lunedì in particolare, tra la fiducia alla Camera e quella al Senato, lasceremo le tonsille sui microfoni. Esatto, e ovviamente in OGM ci sarà anche Marco Gualdi, che salutiamo. Sì, grazie, ho parlato molto questa puntata, mi fa male un po' la gola, o è il Covid? Era interessato, molto interessatissimo, sì. Poi eri impegnato col cane, che tu ti fa schifo. Io lo guardo da lontano, il cane va guardato da lontano, giustamente, sta lì. Esatto. Che a me durante la puntata è venuto un braccio, un macello, ma anche leccato, non si fanno queste cose. E Carmine Puccio, console! A tutti ragazzi, preservatevi anche voi. Che anche lui lo troverete lunedì sera alle ore 21 su OGM. Sì, ma se mi preservo adeguatamente. Se si preserva adeguatamente. Anche per preservarci a noi ci vuole l'imbalsamatore, quindi vedi te, insomma. Diciamolo al grande pubblico. Perché dermista. Nel mio caso, sì. Diciamolo al grande pubblico, così non si possono tirare indietro, che 6 mesi fa Carmine e Walter mi dissero che stavano lavorando a un progetto. Stiamo lavorando, ne stiamo ancora parlando. Di cui non se ne è più saputo niente, perché è un vaporware. Diciamo che uno degli argomenti di cui volevamo parlare mi è proprio entrato nella vita reale, senza preavviso. A gamba tesa, portandomi via una settimana. Vabbè, perfetto. Ok, ragazzi, torniamo. Ringrazio a tutti, da me Simone Pizzi è tutto. Ci vediamo la prossima settimana, sempre con Ludico Forum. Non mi ricordo di che cosa parleremo, ma ce l'abbiamo già in programma. Avrei dovuto prepararmi e scrivermelo. Però anche sti cazzi, ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.